La zanzara. Estate. Con Alessio Maurizi. 18 e 5 minuti, buonasera, ben ritrovati cari ascoltatori, 18, 20 e 30, l'orario della zanzara estate. Per intervenire in diretta il numero verde lo sapete, 800 24 0024, Cristian Goldoni, Laura Faggini in redazione, Valeria Bernardi in regia, Alessio Maurizi al microfono, 18, 20 e 30. Aspettiamo i vostri interventi. Questa sera partiamo dal calcio, ma non per commentare la confermata sentenza in appello contro l'allenatore della Juventus Conte, con il presidente della Juve Agnelli ormai che fa come i bambini che se ne vanno via col pallone a fine partita perché non gli piacciono le regole. No, non parliamo di questo, parliamo, il tema è un altro. Consiglieri comunali gratis allo stadio mai più dovrebbe accadere, almeno a Pescara. Ecco perché, preoccupati per la sorte dei consiglieri comunali pescaresi, i tifosi del Pescara hanno fatto questo spot ironico. Sentiamo. Immagina per un attimo chi non potrà vedersi l'Inter, il Milan, la Juve. Alcuni addirittura attendono la Lazio. Poverini, fai qualcosa per loro. Aiuta un consigliere comunale di Pescara ad entrare gratis allo stadio. Tu tifoso sei fortunato. Hai potuto pagarti l'abbonamento, il voucher o il biglietto. Loro no. Aiuta un consigliere comunale ad entrare gratis all'Adriatico. Campagna di sensibilizzazione a sostegno dei poveri indigenti, consiglieri comunali di Pescara. Si consiglia di prendere una pasticca per il fegato dopo aver visto questo spot. Sugli spalti comincia l'avventura, 40.000 saremo a divar. E questo è l'inno del Pescara. La notizia è che la società non concederà più 150 abbonamenti gratuiti per i membri del Consiglio Comunale, assessori e dintorni a Pescara. E allora i consiglieri comunali si sono inventati che devono andare a ispezionare lo stadio per vedere che tutto è in ordine, e quindi chiedono l'accesso comunque allo stadio. Vedremo più avanti, sentiremo uno di questi consiglieri comunali come interviene su questa questione. Abbiamo appena sentito lo spot ironico dei tifosi del Pescara. Vabbè, questo per gli amanti degli inni, Pescara, che è tornato in Serie A. Cambiamo argomento. Sulla prima pagina di Libero oggi l'elenco, la classifica dei consiglieri regionali più pagati. Questa mattina a Omnibus la domanda al presidente della provincia di Varese, Dario Galli, leghista, sul perché sono i più pagati i lombardi. Si parla spesso di sprechi nel sud Italia. Sentiamo qual è la risposta. Il costo pro capite per abitante dei consigli regionali, il più basso, ce l'ha di gran lunga la regione Lombardia, come sapete benissimo. Va bene, difesa, prendo atto della difesa, è una difesa a numero di abitanti e non a qualità. Non dovrebbero essere per tutti uguali, è vero che ci sono le autonomie regionali, disparità per cui in una regione si prende la metà di quello che prende in un'altra regione sembra strano. Posso dire che anche i giornalisti della RAI guadagnano più dei giornalisti delle TV private, eppure sono sempre giornalisti. Va bene, lo dica. E le diversità ci sono. 12.666 euro il consigliere regionale in Lombardia, seguito da pugliese 10.432. Se scendiamo in classifica troviamo l'Emilia-Romagna 5.666, l'Umbria, una regione più piccola, 6.632. Poi ci sono vie di mezzo come quello per esempio della Campania, 9.329. Galli, presidente della provincia varese, si difende così, si difende. Dice, pro capite siamo quelli che costiamo di meno perché in Lombardia ci sono più abitanti. Sentiamo ancora Galli, Dario Galli della Lega, che non vede la luce in fondo al tunnel, come invece ha annunciato da Monti. Io sono ben contento che lo spread sia calato di 20, 30, 40 punti, ma non parliamo di un paese, come dire, che veramente è a 100 metri dall'uscita della galleria, ormai siamo a posto tutti. La musichetta non è dedicata a Dario Galli, ma non per questioni politiche, ma proprio perché non c'entra nulla. La musichetta è dedicata al sindaco di Napoli, De Magistris, che ieri ai nostri microfoni ha confermato allo studio a Napoli c'è un progetto sperimentale per un quartiere a luci rosse. quindi è qualcosa di diverso rispetto a quello che accade ad Amsterdam o in altre città dove ci sono quartieri dove diciamo la prostituzione è, a pagamento è tollerata, è visibile ed è confinata in quelle zone particolari. Si tratta di qualcosa di diverso. Più o meno, diciamo, è di diverso, ma anche in qualche modo simile, nel senso deve essere individuata un'area. In quell'area si sa che in qualche modo è praticata la prostituzione. E poi non si è fermato qua De Magistris, non soltanto un quartiere dove consentire e controllare in qualche modo la prostituzione, ma anche un quartiere, una zona, una strada per consentire ai giovani ragazzi, alle coppie di appartarsi. La mia idea è quella che si potrebbe sperimentare, lo troverei un fatto positivo di una grande città internazionale, eccetera. Poi c'è una seconda che a me personalmente convince ancora di più e che vedo che nella nostra città c'è per esempio un'assenza di luoghi dove i ragazzi per esempio possono andare anche per stare un po' appartati, no? Non tutti si possono permettere di avere una casa oggi come oggi, oppure magari avere possibilità di andare in alberghi eccetera, certo. Non vedo perché una coppia di ragazzi di 18 anni non possa avere un luogo sicuro, che non è un ghetto ma anzi un luogo molto accogliente in cui poter stare tranquilli. E in effetti mi dicono che a Napoli c'è proprio una strada, credo lungomare, dove questo accade, forse un po' nell'insicurezza generale, ci sono macchine dove i ragazzi si appartano, dove addirittura c'è anche uno, questo in pieno spirito napoletano, che vende i fogli di giornale per coprire l'auto e non essere visti, e quindi De Magistris vuole intervenire anche su questo. Poi abbiamo chiesto della famosa lista dei sindaci. Certe volte chi non vuol sentire veramente o fa finta di non capire diventa veramente, uno lo deve dire in inglese, lo deve dire in tedesco o in qualche altra, non è all'ordine del giorno una lista con sindaci candidati. Invece diversa è l'ipotesi che i sindaci siano, e questo lo saremo, protagonisti di questa campagna elettorale in varie forme. Ecco, quindi questa è la questione. Con dei contenuti programmatici, un manifesto per il governo del prossimo Parlamento, sicuramente per quanto mi riguarda lo faremo anche con un movimento politico organizzato che quindi sia qualcosa di distante dai partiti, seppur non in conflitto con i partiti. È vero che il suo neo assessore Enrico Panini, che viene dalla CGIL, starebbe lavorando anche all'organizzazione di questa cosa? Allora, tutta la giunta è schierata nella creazione e nella formazione di questo movimento. A breve uscirà un manifesto sul quale sto lavorando io insieme agli altri assessori e anche altri amici che stanno in altre parti del paese. Ma come, De Magistris? Tutta la giunta, questo c'era sfuggito ieri di chiederglielo, tutta la giunta è impegnata a lanciare la lista arancione per le politiche nazionali. Ma come, la giunta di Napoli dovrebbe occuparsi dei problemi numerosi della città, invece non soltanto lui o Enrico Panini, che viene dalla CGIL, quindi da una militanza in una grande organizzazione, tutta la giunta si sta mobilitando per il movimento, non chiamiamolo lista dei sindaci, movimento politico arancione che De Magistris, insieme credo a Pisapia e ad altri, vogliono lanciare in vista delle prossime elezioni politiche. 800 24 00 24, adesso sentiamo i titoli di Sky TG24. Rabbi Agnelli, calcio scommesse, caccia le streghe, niente sconti per Conte. Più di 2 euro per un litro di benzina, prezzo record alla vigilia del grande rientro. Juncker e la Merkel frenano la Grecia, solo a ottobre decisioni sul rinvio dei tagli. E lo spread torna a salire 420 punti, borse in calo. Incendi, la vedova del forestale irpino accusa, mio marito si poteva salvare. Sempre più caldo, oggi e domani il picco, da sabato arrivano le piogge. In Siria i tank del governo massacrano 40 persone a Damasco. Harry a pezzi e senza i vestiti, le foto del principe nudo imbarazzano la casa reale. Ci chiede Lorenzo al 349-238-6666 se le cifre che abbiamo dato dei presidenti, degli stipendi dei consiglieri regionali sono lordi o netti. Non c'è scritto in questa tabella, sulla prima pagina di Libero, però direi che si tratta sicuramente di retribuzioni lorde, altrimenti poi diventa difficile sapere quant'è il netto, no? Si calcola sempre sul lordo. Ripeto, Lombardia 12.666, Puglia 10.432, Sicilia 10.055, segue il Piemonte 10.310. In coda a questa classifica troviamo l'Emilia-Romagna 5.600, l'Umbria a 6.632 euro lordi al mese per il consigliere regionale. Traffico. La Zanzara. Salutiamo Matteo Orfini, responsabile cultura e informazione del Partito Democratico, benvenuto. Buonasera. E rilanciamo il numero verde 800 24 00 24 tra poco, dopo l'intervista a Orfini. E il Foglio ha lanciato questa questione del papello o pizzino che sarebbe stato intercettato da un giornalista del Foglio, o meglio gli sarebbe stato fornito da un esponente del PD sotto anonimato, nel quale, in vista della prossima legislatura, convinti già della vittoria elettorale, gli esponenti di spicco del PD avrebbero messo nero su bianco una sorta di spartizione delle future cariche. C'è anche la fotocopia del pizzino. Bersani, si legge male, Palazzo Chigi, Veltroni alla Camera, D'Alema agli esteri o ad altro. Poi c'è la Bindi, Letta, Franceschini segretario, poi non si capisce bene segretario di che. Franceschini è già stato. Insomma, c'è la questione se questo papello è vero, verosimile oppure no. C'è la sua presa di posizione sul fatto che sono sempre i soliti noti che spuntano fuori. Quindi lei, come giovane del PD, chiede che non si ripetano i soliti nomi. E poi c'è anche il cattivo gusto di mettersi lì a fare il patto di sindacato adesso che siamo in piena crisi. Prima di tutto però, Orfini, premessa lunghissima. Secondo lei questo papello, questo pizzino che aveva in mano il Foglio è vero o verosimile? Ma credo che non corrisponda a quello che vuole fare Bersani e quindi che non sia molto realistico che finiamo così, perché Bersani ha detto in più di un'occasione che lui, qualora dovesse diventare Presidente del Consiglio, farà un governo tutto nuovo e quindi non riproporrà la squadra del 96 o del 2006. Potrebbe essere però a mano di qualcuno che non è Bersani, ma che sicuramente, esatto, ci possa essere qualcuno che vuole tentare di condizionare Bersani su questa scelta o che ha legittime ambizioni di riproporre se stesso in ruoli chiave nel governo del paese. Non c'è nulla di scandaloso in questo, credo che non sia quello che il paese chiede al Partito Democratico. Penso che il Partito Democratico debba dimostrare di saper innovare, ma per ragioni politiche, sì, non generazionali, perché quei governi hanno fatto cose importanti ma hanno anche lasciato sul campo molti problemi che ancora oggi dobbiamo affrontare. Quindi forse riproporre quelli che non sono riusciti allora oggi non è la cosa migliore. La cosa migliore. Poi facciamo un passo in avanti, restando però su questo pizzino, non è quello che vuole Bersani, dice lei, potrebbe essere quello che vuole qualche altro esponente del PD, però ripeto la domanda, è verosimile? E quindi se è verosimile, Bersani si dovrebbe preoccupare che c'è qualcuno nel suo partito che la vede diversamente da lui e che in qualche modo sta già tramando. No, ma queste non credo siano trame, non si tratta di vedere, non bisogna vedere la politica in modo così negativo, è una battaglia politica. Se questo documento è tutta fuffa, allora va bene. È la ricostruzione di un anonimo dirigente che ha parlato col Foglio e che ha raccontato quello che secondo lui è l'accordo tra alcuni leader del Partito Democratico. Ma d'altra parte la politica non si fa negli accordi sotto banco, si fa a viso aperto, quindi noi avremo delle primarie per definire il candidato premier del Partito Democratico. Se quelle primarie, come io spero, le vincerà Bersani avrà le mani libere nello scegliere la squadra di governo, nel fare una proposta al suo partito e alla coalizione, e quindi diciamo su quello bisogna misurare il consenso che ognuno di noi ha. Certo. Però lei ha fatto una previsione su questa cosa delle primarie, perché è stato detto all'ultima direzione nazionale prima dell'estate del partito, Renzi è rimasto deluso perché non solo lui forse, ma insomma la data delle primarie sarebbe stata spostata senza essere definita. Poi durante l'estate c'è stato un giallo, perché sembra che queste primarie non è più chiaro se si faranno. Lei dice che ci saranno. Ma è chiarissimo. Qualcuno dice dipende dalla legge elettorale. Ma no, ma noi siamo un partito serio, abbiamo deciso che si faranno le primarie per scegliere il candidato premier, abbiamo detto che se si va alla fine della legislatura le primarie le faremo entro la fine dell'anno, perché non ha senso farle un anno prima del voto. Se si vota in primavera, noi entro dicembre avremmo fatto le primarie. Qualora dovesse esserci un voto anticipato, cosa che nessuno auspica, anticiperemo le primarie, ma insomma, siccome ad oggi sembra che si vada verso la fine naturale della legislatura, entro dicembre faremo le primarie, come abbiamo deciso. Quindi non c'entra nulla la legge elettorale, cioè se cambiasse la legge elettorale in queste settimane, che tra l'altro il candidato premier lo dobbiamo scegliere, sì, quale che sia la legge elettorale. Beh, però se cambia la legge elettorale e si torna a un sistema proporzionale nel quale si fanno le alleanze dopo, che è un po' quello prefigurato di cui si sente parlare, retroscena, indiscrezione, tutto quello che vuole, però sembra un po' il contenuto verso cui potrebbe andare questa riforma della legge elettorale, allora forse la questione del candidato premier potrebbe essere meno... Beh, ma noi comunque abbiamo due autorevoli leader del Partito Democratico che sono attualmente candidati alle primarie, cioè il segretario Bersani del partito e c'è Matteo Renzi, quindi comunque noi questo nodo dovremmo scioglierlo, quale che sia la legge elettorale. Lei voterà per Bersani, ha detto? Io la voterò con convinzione per Bersani, sì. Sì. Senta, in questa intervista al Foglio, che riprendeva questo pizzino e le chiedeva un commento, se non ho capito male, lei invita comunque il suo partito a mettere una sorta di regola, cioè riprendendo quello che secondo lei è il pensiero di Bersani, almeno per quello che ci ha detto lei poco fa, cioè di non ripetere vecchi nomi, vecchi volti già visti, persone che sono già state ministro più di due volte. Ma sì, ho fatto un ragionamento che peraltro avevo già fatto un anno fa e ripetutamente, cioè che è un ragionamento che parte da un punto politico. Noi riteniamo che i governi di centrosinistra che si sono alternati dal 96 al 2001 e dal 2006 al 2008, che hanno fatto tante cose positive, hanno salvato l'Italia, hanno costruito l'euro, eccetera, eccetera, abbiano risolto tutti i problemi del paese. Io credo di no, su alcune cose noi non siamo stati in grado di risolvere quei problemi. Allora forse chi è stato protagonista di quei due governi non può essere oggi protagonista di un nuovo governo che si candida a risolvere però quei problemi. Scusi, anche perché io ho dato un'occhiata, no? Come ministri, due volte ministro, io ho visto D'Alema, ministro degli esteri, è stato anche presidente del Consiglio, quindi niente ministero per lui, Rosi Bindi, ministro della famiglia e della sanità. Non fare però, le liste di nomi, io non le ho no, fatte. No, no, no, no, ma le faccio io, le faccio io. Però arrivo, e qua le chiedo però un commento, arrivo anche a Bersani, che è stato tre volte ministro. Allora... Certo, ma io anche questo avevo spiegato, nel senso che io credo che ci siano ruoli per cui è necessario avere già un'esperienza di governo. È chiaro che un presidente del Consiglio che ha già svolto bene le funzioni di ministro in settori importanti, credo che Bersani sia stato... penso lo dicano anche molti di centrodestra, uno dei pochi ministri dello sviluppo economico che ha riportato le politiche industriali al centro dell'agenda di questo paese, le liberalizzazioni che ha fatto Bersani ancora vengono ricordate, insomma è uno che ha dimostrato di saper governare. Per fare il Presidente del Consiglio, come per fare altri ruoli qua chiave all'interno del governo, di esperienza c'è bisogno, però... diciamo, questo riguarda alcuni ruoli limitati, tra cui il Presidente del Consiglio. Beh, certo, c'è bisogno, però per esempio in Gran Bretagna c'è Cameron Ha fatto un governo in cui ci sono in alcuni ruoli chiave i ministri che hanno una storia e che sono anche abbastanza âgé, e invece su in altri ministeri altrettanto importanti ci sono giovani che venivano dalle file del partito, dall'amministrazione, dalla società civile. Insomma, si tratta di trovare un giusto punto di equilibrio. Quello che non si può fare è rifare il terzo governo Prodi senza Prodi. Questo veramente non sarebbe una proposta politica che parla al paese, almeno per come la vedo io. Insomma, quindi questo è un paletto però superabile in qualche modo, quello che lei pone, dei due mandati, due volte ministro, cioè non vale per il Presidente del Consiglio. Può non valere per i ministeri chiari. Credo che beh, ma insomma l'importante è che noi affrontiamo questo nodo. Poi insomma quella è una delle ipotesi. Io ho detto, secondo me, se uno l'ha fatto due volte può fare qualcos'altro per il proprio partito e per il proprio paese. Ci ho detto, non va bene questo, però discutiamo di questo problema, riconosciamo il fatto che quella foto lì è ingiallita e non parla più all'Italia di oggi. E se noi ci candidiamo alle elezioni proponendo quella cosa lì, non funziona. Ma infatti è il problema che prima di tutto Bersani ha riconosciuto, dicendo: io mi presenterò con una squadra nuova. Sì. Volto nuovi, nomi nuovi. Secondo lei anche fuori dalla politica, cioè esperti tecnici, come per esempio ha fatto anche il governo Monti, pescando tra personalità del settore economico che non avevano un passato in politica, potrebbe essere anche questo? Ma io credo che noi dobbiamo cercare classe dirigente anche nella società civile, nel paese. Naturalmente poi bisogna capire cos'è società civile, perché non è che il governo Monti ha molti ministri che hanno dimostrato, o sottosegretari che hanno dimostrato di essere all'altezza, altri un po' meno. Cioè, il problema è dove andiamo a cercare. Io credo che in questo momento in cui il paese lotta per uscire dalla crisi, ci sono molti lavoratori, imprenditori, gente normale che sta lottando per portare questo paese fuori dalla crisi, lo sta tenendo in piedi. Forse noi dobbiamo andare a cercare un po' più lì, un po' meno nei salotti, la nuova classe dirigente. Orfini, un'ultima cosa le voglio chiedere. Noi abbiamo fatto sentire poco fa un intervento di ieri sera del sindaco di Napoli, De Magistris, qua ai nostri microfoni, che confermava non tanto la lista dei sindaci, perché non ci saranno sindaci candidati, ma questo era già stato detto in qualche modo, ma ci sarà, sarà presentato presto un movimento politico arancione sull'onda della vittoria alle amministrative di alcuni sindaci, tra cui sicuramente De Magistris e Pisapia, in vista anche di una possibile lista civica per le elezioni, che naturalmente sarà nel centro-sinistra. Una lista che, come la vede, vi impensierisce perché mette in dubbio il monopolio del PD, o invece arricchisce perché prenderà voti anche tra grillini e scontenti, per esempio? No, ma io credo che il problema di un ulteriore elemento di frammentazione del quadro politico non aiuti, nel senso che un'ulteriore lista non ha senso. Credo che però l'esigenza da cui parte quella voglia di costruire una lista vada raccolta, cioè credo che i partiti di centrosinistra, il Partito Democratico, SEL, gli altri che saranno con noi, devono porsi queste esigenze e aprire le proprie liste, che vuol dire anche che molti di noi devono fare passi indietro. Ci sarà una specie di concorrenza quindi nella società civile, cioè loro faranno la lista e voi aprirete le liste. Io spero che loro non facciano alla fine una lista, perché i partiti si dimostrano in grado di accogliere quella voglia di partecipazione. Cioè, se noi apriamo le nostre liste all'esterno, all'innovazione, appunto alla società civile, non c'è bisogno di fare una lista civica. Il problema è che i nostri partiti devono diventare degli strumenti aperti, e quindi c'è bisogno che qualcuno di noi sia disponibile a fare passi indietro, a cedere pezzi di sovranità e ad aprirsi, appunto, e cedere il posto a gente che dimostra di avere voglia di impegnarsi. A quel punto non ci sarà bisogno di liste. Chiaro. Che poi rischiano di diventare un ennesimo partitino, elemento di frammentazione in un quadro politico che è già abbastanza confuso. Un'ultima cosa gliela voglio chiedere, perché abbiamo accennato al tema della riforma elettorale. Non so se lei sicuramente sarà meglio informato di noi. I giornali continuano a scrivere piccoli articoletti, retroscena, si dice per l'ennesima volta che siamo vicini a un accordo, no? Tra i partiti PD, PDL e credo anche l'UDC. Lei ne sa qualcosa? Ma io credo che non ne so poco, perché come molti ad agosto, diciamo, sto dedicando qualche giorno alla famiglia, però che io sappia non c'è ancora un accordo e la discussione riprenderà a settembre nelle sedi politiche, peraltro non nei retroscena dei giornali. Ma ci sono comunque questi incontri. Si discute e si vedrà, è chiaro, la discussione. Noi abbiamo, cioè, però scusi Orfini, è chiaro che se si farà la legge elettorale sarà fatta su una base di un accordo tra tre esponenti politici del PD, del PDL e dell'UDC. Il Parlamento ratificherà. Noi fino ad oggi e fino alla fine di questa discussione abbiamo posto solo due paletti, cioè che i cittadini possano decidere il proprio parlamentare, che quindi non ci sia alcuna forma di lista bloccata e che il giorno dopo, un momento dopo la notte delle elezioni, si sappia chi governerà e quindi ci sia in qualche modo la garanzia di che i cittadini scelgono anche chi governa. Ad oggi non c'è un accordo, e quindi perché noi non abbiamo trovato soddisfazione su queste nostre due posizioni, però io spero che la consapevolezza che sia indispensabile cambiare la legge elettorale alla fine ci farà fare dei passi in avanti. È chiaro che col porcellum non si può tornare a votare. In ogni caso noi abbiamo detto che se ci sarà il porcellum faremo le primarie per scegliere i parlamentari, che comunque come contromisura è già qualcosa. Va bene, grazie Matteo Orfini, buona serata. Grazie a voi. 18:29, facciamo una pausa per le informazioni dai mercati finanziari, la borsa, poi torniamo tra poco. 800 24 00 24, gli interventi degli ascoltatori. La Zanzara. 18:32, apriamo la sessione con gli interventi degli ascoltatori, che ieri sera erano partiti agguerritissimi, le prime tre chiamate. Vediamo invece come va stasera all'800 24 00 24. Enzo ci chiama dalla provincia di Bergamo, buonasera. Buonasera, io volevo intervenire a proposito dell'intervista di ieri sera di De Magistris, il sindaco di Napoli. Sì. In particolare a proposito, diciamo, della parte politica dell'intervista, cioè laddove parlava di questo movimento politico che dovrebbe varare, diciamo, a settembre e che insieme ad altri sindaci in vista delle elezioni politiche e che ha questo progetto, come giustamente diceva lei all'inizio di trasmissione, niente meno sta lavorando l'intera giunta comunale di Napoli. Ecco, io volevo dire, avevo già chiamato ieri sera, che io trovo scandalosa questa cosa, se lei me lo permette, perché come dice la parola stessa, una giunta comunale è del comune di Napoli che dovrebbe occuparsi, cioè gli assessori Panini e tutti gli altri sono pagati dai cittadini per questo, per risolvere i problemi di una città che tra l'altro, voglio dire, ne ha iosa, come tutti sappiamo. Allora questa esigenza io la trovo davvero assurda, offensiva nei confronti anche dei cittadini di Napoli che hanno votato De Magistris per fargli fare il sindaco per 5 anni, è stato eletto, ma perché questo bisogno all'indomani di occuparsi già di altro, pensare ad altro, la lista dei sindaci, ma chi sente il bisogno di questa cosa qui? E in ogni caso perché devo occuparsi nel De Magistris che già ha un ruolo ben preciso? Certo, non è solo perché poi è in bella compagnia, come diceva prima quel deputato del PD, anche Renzi, che è sindaco di Firenze e che dovrebbe governare una città metropolitana come Firenze, da tempo si sta occupando, diciamo, di qualcosa che deve ancora avvenire, no? Di candidarsi, sì, alle primarie per diventare il futuro presidente del Consiglio. Ma dico, ma perché? Va bene, Enzo. Sì, sì, mi sembra chiaro quello che lei dice. Tra l'altro io sono anche d'accordo in parte con lei, nel senso che credo che De Magistris lì sia un po' scivolato, perché la domanda era: Panini sta lavorando a questo? Lui, per non dire che Panini sta lavorando a questo, sì, ma tutta la giunta sta lavorando a questo. Allora è venuta fuori così. Io credo che se gli rifacessimo la domanda non so se risponderebbe allo stesso modo, perché certo è esporsi il fianco a una critica netta, no? È chiaro che la giunta di Napoli deve lavorare per Napoli, quindi non è ammissibile che lavori tutta la giunta ventre a terra per un progetto politico nazionale che non c'entra nulla con Napoli. Poi diverso è il discorso su alcuni concittadini napoletani o fiorentini o anche di altre città che magari vedono di buon occhio il fatto che il loro sindaco si distingua anche in campo nazionale, perché pensano che possa portare qualcosa di più alla loro città con questo ruolo eventualmente che va ritagliandosi. Questo è un altro punto di vista che sicuramente c'è in giro. Io non la vedo molto così, però sicuramente qualcuno lo penserà. Luisa dalla provincia di Siena, buonasera. Buonasera, senta, io mi riferivo a quanto era stato detto ieri sera a proposito di Comunione e Liberazione. Quel signore che milita da 35 anni e che esaltava Comunione e Liberazione, io abito a Carate Brianza, dove sono nati i capi storici di Comunione e Liberazione e ci sono ancora tuttora, è una Comunione e Liberazione completamente diversa da quella che è stata detta, perlomeno. Il fine di Comunione e Liberazione è la spartizione di poltrone ai vertici, soprattutto nella sanità. Lei venga, faccia un'indagine nei nostri ospedali e si ritroverà che tutti i coordinatori, persone che ricoprono i vertici, sono tutti di Comunione e Liberazione, come noi chiamiamo CL. Veramente di CL nella Brianza ne abbiamo piene le scatole, ne abbiamo piene. Perciò questo signore che milita da 35 anni dovrebbe rivedere. Ma lei a chi si riferisce? A Mario Mauro che abbiamo intervistato? Lei a chi si riferisce? A Mario... Non lo so, guardi, io l'ho sentito così per caso. Si riferisce a un ospite che militava da 35 anni, sì, e che esaltava appunto Comunione e Liberazione. Vabbè, è un parlamentare, ragazzi, del PDL che milita in Comunione e Liberazione, sì. Come? Grazie Luisa, non ci capiamo. È un parlamentare del PDL che ha militato anche in Comunione e Liberazione da 35 anni, sì. Però non è solo uno di Comunione e Liberazione, è un parlamentare, questo che stavo dicendo. È uno del PDL, adesso è a Strasburgo, è parlamentare europeo e insomma, ha voce in capitolo nella politica, non solo in Comunione e Liberazione. Comunque, grazie a Luisa. Andiamo a Furio che ci chiama da Bologna. Buonasera. Buonasera dottor Maurizio, intanto mi faccia fare un piccolo preambolo, io la ringrazio della sua cortesia, della sua democraticità che fa partecipare finalmente della Zanzara le persone che vogliono esprimere qualcosa a differenza della schizofrenica conduzione dei suoi due colleghi. Però fatta questa premessa volevo essere focoso come gli altri interventi, sì. Veloce. spese militari, interventi bellici dell'Italia, l'unico paese che sta continuando a mandare contingenti, armamenti, costruire aerei, eccetera, eccetera. Ho sentito in televisione il signor Della Vedova che diceva che è solamente per la rappresentatività dell'Italia. Siamo un paese dove tagliamo cultura, dove tagliamo spese, dove tagliamo ospedali, dove tagliamo tutto per la famiglia e continuiamo a mantenere un armamentario, un contingente militare abnorme, che non so se si parla di 10-12 miliardi di euro, e poi si va a fare nella spending review, si taglia la detassazione, non so se le ha sentito parlare della produttività, degli straordinari, le aziende falliscono, le banche non hanno soldi, qui non c'è più niente, nessuno, la guerra ce l'abbiamo in casa e noi cosa facciamo? Noi italiani andiamo a fare la guerra in Afghanistan, in Iraq, nel Kosovo, eccetera, eccetera. Ma portiamo a casa tutti questi militari, tutti questi soldi, tagliamo di netto. Oddio, è caduta la linea con Furio, che però mi sembra avesse detto... Ecco, un'ultima considerazione. Sì? Io la ringrazio perché ieri finalmente che ero, siccome io come tanti, io lavoro in un aeroporto, vedo migliaia di persone, nessuno sa più cosa votare, ieri ho avuto finalmente un chiarimento di che cosa non voterò 5 Stelle, dopo quello che ho sentito dire dal consigliere regionale, quello di Ferrara e quell'altro di Modena. Se avevo dei dubbi, se mi tappavo il naso per fare una rivoluzione virtuale, perché ormai nessun politico, nessuna politica mi rappresenta più, adesso però sono di nuovo nel grande dubbio che non so più cosa votare, cioè non so, quasi quasi l'unica possibilità è non votare, ma anche quello è un danno. Terza cosa, poi sì. Lascio perché devo lasciare lo spazio per gli altri interlocutori, come mai nessuno parla più dei due parà in India? Cosa li abbiamo fritti? Li hanno già fritti come le cavallette? Se li sono già mangiati? Come mai questi signori che per giorni e giorni in televisione ci hanno riempito la testa, ci hanno sfasciato, che intervenivano, eccetera, eccetera, quei due poveretti sono ancora in galera lì? E la diplomazia del governo Monti? E questi grandi professori, Fornero, eccetera, tutta questa gente qua, quei due lì rimangono là. Ecco, io quello che volevo dire, scusi, sì, ho già grazie, detto. Grazie Furio. Un'ultima cosa, dottore. È già la terza volta che dice un'ultima cosa. Lei ci sta provando, Furio. Ancora Radio 24, perché non si può fare che un giorno parla lei e un altro giorno partecipano gli altri due conduttori, che tutti quanti avremmo più piacere che ci fosse lei? Ah, guardi, io sarei d'accordissimo, a me piace fare questo. L'abbiamo capito tutti noi ascoltatori, perché lei è una persona intelligente e garbata, che oltretutto risponde in modo garbato e educato alle persone che interloquiscono con lei. Vabbè, ci vorrebbe ma non più gente sì, come sì, lei. Grazie. Queste decisioni non è che si prendono al microfono la sera a Radio 24 sulla Zanzara, insomma, sono decisioni che non spettano a me e neanche a lei. Grazie comunque. I complimenti naturalmente fanno sempre piacere. Antonio da Napoli, buonasera. Buonasera Maurizio, complimenti per la trasmissione. Poi dicono che filtriamo le telefonate che chiamano. Non mi fate bico perché dicono che filtriamo, facciamo telefonare solo quelli che fanno i complimenti. Che è impossibile, perché non è che uno chiama dicendo voglio fare il complimento. Sì. Allora, io soprattutto sono rimasto indignato da quello che è stato i consiglieri del Pescara che chiedono di andare alla partita gratis. Io dicevo prima alla sua collaboratrice, no, quando ho chiesto di intervenire, è assurdo che c'è gente, cassi integrati, che pigliano 800 euro al mese e che casomai vorrebbero portare a vedere la partita ai loro figli e non ci riescono, perché anzi non si possono permettere neanche di vedere la partita per televisione, perché oggi è tutto a pagamento. Mi sente? Sì, sì, la sento. E quindi già è scandaloso. Chiedere un consigliere che chiede di andare allo stadio gratis è una forma di tangente, una mazzetta, una camorra, come la vogliamo chiamare. Per me sono dei tangentisti. Poi posso fare pure un piccolo passaggio su De Magistris. Sì, prego. Sul fatto di De Magistris, sul successo arancione in tutte le città dove si è vinto, si parla di liste arancione, di liste civiche, ma non si parla del contributo che ha dato la federazione della sinistra a questi successi. anche lei nella sua trasmissione non ha mai citato la federazione. Ma non è che dobbiamo citare Antonio, grazie, sì, ma non è che dobbiamo citare tutti i partiti nella trasmissione. Dipende dalle iniziative che vengono prese, da quello che si vuole raccontare ogni sera. Non c'è una par condicio su questo, Antonio. Grazie comunque e buona serata. 800 24 00 24. Adesso salutiamo Sandra Bonsanti, presidente di Libertà e Giustizia. Buonasera. Buonasera. Ciao. Eccoci qua. Allora, il tema è spinoso, è complesso. Io ero anche dubitavo un po' se affrontarlo o no, perché secondo me molti italiani... E io dubitavo se venire per rispondere. Però siccome ci sono degli appelli a favore dei magistrati di Palermo firmati, promossi dal Fatto, lei ha firmato, c'è la questione di queste intercettazioni tra l'ex ministro Mancino, il Quirinale, ci sarebbero forse delle telefonate anche di Napolitano. Napolitano stesso, che ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale per impedire che vengano usate queste intercettazioni, e c'è tutta questa querela. Adesso lei ci spiegherà perché ha firmato, di cosa si tratta. Però poi l'ultima questione che ci interessa è anche il fatto che, come dire, si è spaccato il partito di Repubblica, se posso sintetizzare così, perché dopo l'articolo di Zagrebelsky che invita Napolitano a non fare questo ricorso, c'è stata la risposta di Scalfari che se la prende con Zagrebelsky. Adesso lei in un'intervista oggi al Corriere dice: beh, questi si comportano come gli ex PC staliniani, cioè ci accusano a prescindere perché attacchiamo Napolitano. Ci spiega un po' questa situazione? Da cosa vuoi partire? E io partirei dall'ultima cosa, cioè da questa accusa di staliniani a alcuni giornalisti che sull'Unità, su Repubblica, vi accusano solo perché chiedete questa perché avete firmato per esempio questo appello a sostegno dei magistrati di Palermo. L'appello a sostegno dei magistrati è una cosa, io l'ho firmato a titolo personale, non come presidente di Libertà e Giustizia, però lo ritengo una cosa sacrosanta. Io penso che stiano facendo l'indagine, l'inchiesta, non solo Palermo ma anche Caltanissetta e anche Firenze, sul 92-93, che è la più difficile in assoluto che ci sia mai stata, io credo, nella storia e nella cronaca italiana, perché riguarda le stragi, riguarda l'uccisione dei due magistrati che rappresentavano la lotta alla mafia in Italia e all'estero, riguardano una trattativa che non era una trattativa normale, era una trattativa in cui chi si opponeva veniva ucciso, semplicemente, questa è in sostanza la cosa. Quindi è un'inchiesta estremamente delicata, con interferenze di tutti i generi. Basta vedere che una inchiesta, quella sulla morte, sull'uccisione di Borsellino, è arrivata fino in Cassazione con un autoaccusato, un pentito, che era tutta sbagliata completamente, quindi con informazioni false e depistaggi enormi. Quindi io dico che in questa situazione è un dovere di dare tutta la solidarietà ai magistrati di Palermo e chieder loro di fare tutte le indagini possibili, tutto quello che loro devono su cui devono poter scavare, devono poterlo fare senza nessuna restrizione, perché si tratta di trovare una verità molto scomoda, forse, non lo so, perché non so a cosa approderanno queste indagini, però le premesse ci sono tutte, visto che sia la Procura di Firenze, sia la Procura di Caltanissetta, sia Palermo si stanno muovendo su questa linea. Quindi il 92-93 per l'Italia è stato un periodo tremendo in tutti i sensi. Quindi voi dite si dovrebbe indagare, andare avanti, e voi avete espresso quel sostegno ai magistrati. Adesso poi parleremo anche dei magistrati di Palermo, per esempio di Ingroia, secondo qualcuno fa troppi interventi politici, troppa esposizione in TV, però questo, diciamo, glielo vorrei chiedere dopo. Prima vorrei affrontare il nodo Napolitano, perché sembra che chi tocca Napolitano muore, nel senso che tutta questa levata di scudi nasce dopo la presa di posizione di Napolitano, e lei dice, anche lei credo come Zagrebelsky, che Napolitano dovrebbe ritirare questo ricorso. Adesso ci dirà perché. Prima però facciamo la pausa per il traffico. La Zanzara. Perché insomma succede, Sandra Bonsanti, presidente di Libertà e Giustizia, giornalista, ex direttore del Tirreno, firma editorialista, che dopo che Zagrebelsky, anche lui firma di Repubblica, insomma ex presidente della Corte Costituzionale, dice che Napolitano dovrebbe ritirare questo ricorso alla Corte Costituzionale, appunto siete stati accusati di che cosa, Bonsanti? Diciamo che la richiesta è di Zagrebelsky, non dice che dovrebbe, gli chiede con grande umiltà e con grande profondità, credo, di argomenti, gli chiede se non sia il caso di ritirare un ricorso che a suo avviso è estremamente pericoloso e rischioso per le conseguenze che può avere, perché può creare una situazione di scontro costituzionale fra i due massimi rappresentanti garanti della Costituzione, cioè il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale, quindi e la magistratura. Un braccio di ferro che non fa bene a nessuno. Non si è mai verificato. Quindi lui dice, ma non si potrebbe, distruggendo le intercettazioni, non potrebbe ripensarci? In fondo è la richiesta di una persona abituata al dialogo, a dialogare, a discutere con le persone, molto spesso anche a cambiare opinione alla fine della discussione. Quindi è la richiesta di un uomo libero a un altro uomo libero, anzi secondo me è una manifestazione di grande rispetto nei confronti del Presidente. Però lei non sono andate giù le prese di posizione contro Zagrebelsky e immediatamente questa cosa ha fatto sollevare una serie di... Beh, lei ha dato degli stalignani a Scalfari, a Macaluso e al direttore dell'Unità. Scalfari ho detto un'altra cosa, Scalfari ho detto lui è un'altra storia, non è la storia degli stalignani. Gli stalignani ho detto quelli che hanno scritto in particolare sull'Unità. Vabbè, gli ex PC, Macaluso che ha tirato in mezzo. Sì, Violante. Violante, sì, ma io con Violante sono in ottimi rapporti, anche oggi mi ha mandato una mail. Voglio dire, io penso che sia una cosa di grande rispetto nei confronti del Presidente della Repubblica, e penso che Scalfari rappresenta una cosa diversa, perché lui rappresenta un giorno, ma questa è una mia opinione, poi ce ne possono essere 50.000, Libertà e Giustizia soprattutto è un'associazione fatta di liberi pensatori. Sta dicendo Scalfari rappresenta una... Rappresenta se stesso, rappresenta un grandissimo giornalista che ha sempre fatto le sue battaglie fino in fondo. Lui quando crede una cosa va avanti e ci crede. Ed è così, ho fatto l'esempio della che era contro la trattativa sul caso Moro, anch'io non ero d'accordo sulla trattativa, magari mi sarebbe piaciuto che le indagini fossero state fatte in un altro modo, però questo è un particolare. Penso che Scalfari è stato, cioè non c'è un blocco, e poi vorrei dire un'altra a proposito cosa, di Scalfari, però le vorrei chiedere un commento su questo, anche di retroscena dei giornali, che come sostituto di Pininfarina potrebbe essere nominato senatore a vita, lui o Gianni Letta, come lo vedrebbe Scalfari senatore a vita? Benissimo, assolutamente, come vedrei, non sono tanto d'accordo su Gianni Letta, ma questo non è un'opinione che mi stai chiedendo. Vabbè, c'era da aspettarselo, se no Libertà e Giustizia non sarebbe lì per niente. E invece sui magistrati palermitani, le avevo anticipato la domanda, c'è anche Ingroia che viene criticato da molti perché fa troppe uscite politiche, perché va alle feste di partito, perché va in TV, eccetera. C'è troppa esposizione e questo è uno dei motivi per cui poi si è arrivati a questo punto? Beh, ricordiamoci che l'esposizione significa anche avere un consenso visibile da parte della gente, e io credo che questo sia sentito soprattutto come necessario da chi è esposto in quel modo tutti i giorni, in un lavoro che mette a rischio la loro vita, diciamocelo francamente, ogni giorno. Quindi la solitudine, lasciare sola una persona, metterla in difficoltà, fare quello che fu fatto a Giovanni Falcone è il segnale peggiore che può essere mandato alla criminalità e a chiunque abbia interesse a liberarsi di un magistrato scomodo. Ecco. Quindi lui cerca questo consenso. È facile dire parla troppo, diciamo che è troppo facile dirlo non essendo nella situazione in cui è in groia, in cui lavora in groia. Senta, tornando un attimo alla questione di prima, no? Cioè al nodo poi di queste intercettazioni che riguardano Mancino con un collaboratore del Quirinale all'epoca, e ci sarebbero ci sono secondo lei queste intercettazioni che riguardano Napolitano? Ma riguardano, cioè Mancino che... Allora, posso dire una cosa? Io non penso che Mancino abbia fatto un buon servizio, ma perché questa persona che viene accusata, guardate bene, non per qualche cosa che ha fatto quando era ministro dell'interno, ma semplicemente per aver mentito. Quindi Mancino è accusato da Palermo, vogliono sapere perché lui dice una cosa e Martelli per esempio ne dice un'altra. Ma ci sarebbe l'intercettazione di Napolitano che vorrebbe mediare tra queste due posizioni. Ma Napolitano probabilmente si rende conto che è una situazione molto delicata, ma non è stato giusto coinvolgere Napolitano. È lì quello che io dico. Mancino non doveva cercarlo. Io ricordo benissimo Mancino. Ma se così è successo, era terrorizzato e come lui Mannino, appena hanno ammazzato Lima, questi qui hanno perso la testa, hanno pensato che toccava a loro. E la trattativa c'è stata, erano terrorizzati, il mondo politico si è salvato e i magistrati sono stati ammazzati. Ma il ruolo di Napolitano in tutto questo, quale sarebbe stato secondo lei? Secondo me il ruolo di Napolitano, in questo momento diciamo, il ruolo di Napolitano è quello di un Presidente della Repubblica che sicuramente preferirebbe che non si fossero rivolti a lui o che non lo chiamassero per chiedergli di intervenire. Cioè è stato coinvolto suo malgrado. È intervenuto, i magistrati hanno detto che non è intervenuto e c'è stato purtroppo la terribile scomparsa di D'Ambrosio che tra l'altro era molto amico di Zagrebeschi, quindi anche lì cercare di fare delle separazioni o di creare degli steccati è veramente un'operazione indegna, come dice il comunicato di Libertà e Giustizia della Presidenza che è oggi sul nostro sito e che parla appunto di tentativi deliranti, affermazioni deliranti, quelli che cercano di mettere anche l'Associazione Libertà e Giustizia in mezzo a un antipolitica, a un fronte di antipolitica diffuso. Ma quindi secondo lei Napolitano sarebbe stato tirato in mezzo suo malgrado e al termine di questa vicenda, qualora il ricorso fosse ritirato per esempio, al termine a cosa si potrebbe arrivare? Anche comunque a qualcosa che tocca Napolitano o no? Secondo lei? Non credo assolutamente, non tocca Napolitano, tocca l'inchiesta di Palermo, devono andare avanti e devono sapere perché il ministro Mancino e Martelli danno delle versioni diverse, che cosa è successo nel 92 e nel 93, che cosa si è mosso in quegli anni per venire incontro alle richieste di Cosa Nostra, che altrimenti metteva le bombe e faceva morire innocenti oppure ammazzava i magistrati. Benissimo, grazie, siamo in chiusura, grazie Sandra Bonsanti, Presidente di Libertà e Giustizia, diamo spazio al giornale radio e poi torniamo più tardi, 800 24 00 24, a dopo. La Zanzara, 19:16 minuti, ben ritrovati, 800 24 00 24, 18, 20 e 30 l'orario, staremo insieme quindi ancora per un'ora e mezza con i vostri interventi, cari ascoltatori. Risentiamo lo spot dei tifosi del Pescara a commento della notizia: niente più abbonamenti gratuiti a 150 tra consiglieri comunali, assessori, portaborse e quant'altri. Parliamo del Pescara Calcio, la decisione della società quest'anno, e allora preoccupati i tifosi hanno pensato a questo spot. Immagina per un attimo chi non potrà vedersi l'Inter, il Milan, la Juve, Alcuni addirittura attendono la Lazio. Poverini. Fai qualcosa per loro. Aiuta un consigliere comunale di Pescara ad entrare gratis allo stadio. Tu tifoso sei fortunato. Hai potuto pagarti l'abbonamento, il voucher o il biglietto. Loro no. Aiuta un consigliere comunale ad entrare gratis all'Adriatico. Campagna di sensibilizzazione a sostegno dei poveri indigenti, consiglieri comunali di Pescara. Si consiglia di prendere una pasticca per il fegato dopo aver visto questo spot. De Magistris, il sindaco di Napoli, ieri sera ai nostri microfoni ha confermato l'intenzione A di fare una zona a luci rosse a Napoli, quantomeno di sperimentare la possibilità che venga creata un'area della città di questo tipo, dove viene tollerata la prostituzione, B di fare un creare una zona, anche qui un'area, una strada che non sarà la stessa, dove le giovani coppie di napoletani possono appartarsi in tutta sicurezza, perché ha detto non tutti hanno i soldi per pagarsi l'albergo e poi ci sarebbero problemi di sicurezza se uno va con la macchina appartandosi come si fa, insomma, normalmente. Come accade, insomma, senza bisogno di altri commenti. De Magistris, che è tornato anche sul tema della lista, non chiamiamola dei sindaci perché non ci saranno candidati sindaco alle prossime elezioni politiche, ma un movimento arancione ci sarà, animato dai sindaci. Sentiamo che cosa ci ha svelato. Ci sarà di mezzo anche il colore arancione, sarà un riferimento simbolico. Sì, io in questo momento ce l'ho nel mio polso. Il colore arancione è un colore che ha unito alcuni sindaci in una campagna elettorale importante di un anno fa, è un colore che ha assunto una valenza politica e resterà. Nella politica anche i simboli hanno il loro valore, oltre che i contenuti. Tutta la giunta sta lavorando a questo progetto, ha detto, rispondendo alla nostra domanda, De Magistris, sollevando qualche critica. Sono già arrivate alcune telefonate da parte degli ascoltatori che dicono, beh, insomma, De Magistris dovrebbe prima di tutto la giunta occuparsi di Napoli, non di questo movimento. Ma tant'è, ancora qualche indiscrezione, faremo una manifestazione a settembre. E quando arriverà la presentazione a settembre? Guardi, io credo a settembre, sì. A settembre il manifesto, il nome, alcune firme importanti, e poi credo a ottobre faremo un'iniziativa importante nel paese, vediamo se farla a Napoli o un'altra parte. Benissimo, così De Magistris, 800 24 00 24. Ascoltatori, tra pochissimo, adesso sentiamo i titoli del TG3. Prezzo della benzina al massimo di tutti i tempi, oltre 2 euro al litro, ci costa 700 euro l'anno in più, previsti rincari per tutte le merci. Merkel su Atene, decisione ad ottobre, Samaras, i tedeschi riavranno i loro soldi, borse giù, spread in rialzo, Confindustria bene le misure per la crescita. De Magistris a settembre, il partito arancione dei sindaci, pronto nome simbolo, più vicino all'intesa nella maggioranza sulla legge elettorale. Protestano gli operai dell'Alcoa di Porto Vesme contro la chiusura della fabbrica, bloccato per ora l'aeroporto di Cagliari. Calcio scommesse, confermata la squalifica, 10 mesi per Conte, tecnico della Juve, assolti Pepe e Bonucci, Agnelli caccia alle streghe. Oggi il giorno più caldo dell'estate dopo Lucifero, l'atteso l'arrivo di Beatrice con piogge temporali e ora allerta frane ed alluvioni. La piccola Celeste, curata con le staminali, deve riprendere la terapia, lo ha deciso il giudice del lavoro dopo lo stop dell'agenzia del farmaco. 824 0024, tra pochissimo, cari ascoltatori. Prima, la verità di Ugo Marchetti, ex comandante generale della Guardia di Finanza, ex vice sindaco assessore al bilancio al Comune di Palermo per, credo, quanti giorni, Marchetti, prima delle dimissioni? 2 mesi e mezzo. Che se n'è andato, non dico sbattendo la porta perché in realtà non ha sbattuto nessuna porta, se n'è andato in maniera molto garbata, ha scritto una lettera a Orlando nella quale ha spiegato pubblicamente i motivi di questo dissenso. Per la verità è una lettera, posso dire, un po' cifrata, perché dice, non dice, in realtà è lunga, ci sono gli elementi per capire Marchetti. Le vorrei chiedere questo prima di tutto, la questione su cui se n'è andata, adesso naturalmente ne parleremo, la nomina dei dirigenti di queste aziende partecipate al Comune di Palermo, per esempio, è una questione centrale in un comune che ha un buco di bilancio enorme e deve essere risanato. Lei che era stato chiamato come assessore al bilancio. Però le voglio chiedere questo, ci ha ripensato un po' in questi giorni? Marchetti, che c'è? Al telefono sta schiacciando le tasti. Marchetti, c'è qualche problema? Sta schiacciando i tasti? Ci sente prima di tutto? No. Che è successo? Lo richiamiamo. Qualche difficoltà con l'uso del cellulare, forse. Lo richiamiamo subito, vediamo se facciamo in tempo. Se no, nel frattempo sentiamo un ascoltatore. Stiamo ripristinando il collegamento. Niente, tra un attimo. Intanto, ascoltatori. Pietro da Roma, buonasera, benvenuto. Buonasera, complimenti davvero per la conduzione garbata, e mi fermo lì, altrimenti perdiamo tempo prezioso. Bravo, grazie. Due consigli pratici e due riflessioni. Da vari giorni si sente parlare di disoccupazione giovanile. Io ho 44 anni, un lavoro per fortuna ce l'ho e anche un lavoro che mi piace. Però non tutti hanno la voglia magari di affrontare un percorso di formazione che li porti a perdere molto tempo per varie lauree brevi o lunghe che siano. Parlavo l'altro giorno con degli amici francesi, ma so che la stessa situazione vale in Germania. Le scuole professionali in quei paesi consentono veramente un'alternanza di una settimana sui banchi e di una settimana nelle varie aziende o piccole realtà operative, dove poi la gente si fa apprezzare e conoscere anche per le sue capacità umane, oltre che a imparare a fare un mestiere o a farle un'attività. Perché lei ci dice quindi questo, Pietro? Prego? Perché ci sta raccontando questa sua... Ma perché penso che così veramente molti giovani che in Italia invece magari non sceglierebbero un istituto tecnico per stare parcheggiati 5 anni e poi comunque doversi cercare un lavoro, probabilmente sarebbero invogliati ad entrare in un circuito virtuoso che gli consentirebbe probabilmente di lavorare da subito una volta completato questo periodo, diciamo, di apprendistato, formazione. Va bene, è una proposta la sua. Vabbè, ce ne sono. E l'altra cosa, sì, che mi sentivo di dire, se posso, sì, sì, è relativo sempre a un problema molto pratico che mi tocca da vicino. Io sono un cittadino di Roma, purtroppo noi a Roma abbiamo ancora i cassonetti dell'immondizia per strada e ovviamente abbiamo tutta una serie di problematiche che ci avvicinano tantissimo a quelle che sono le situazioni della Campania, quindi certo, con i cassonetti così è difficile fare la raccolta differenziata, questo è evidente. Esatto, io certo penso che al di là della raccolta differenziata, che in realtà c'è però sempre col sistema per strada, bisognerebbe provare davvero ad avere il coraggio di passare a una raccolta che sia condominiale o se non porta a porta, e che sia premiante ovviamente per chi fa quello che deve fare nel modo giusto. Va però bene, mi rendo conto, sì, che è importante anche che le autorità locali, insomma i comuni in questo caso, abbiano ben chiaro che cosa fare poi delle cose raccolte in modo differenziato. Vabbè, questo è un altro paio di maniche, questo accade sempre. Grazie Pietro, abbiamo recuperato Ugo Marchetti, sì, buonasera, ben ritrovato. Vice sindaco, assessore al bilancio del comune di Palermo, prima delle sue dimissioni io ho introdotto l'argomento e poi le volevo chiedere, adesso a mente un pochino più calma eccetera, ci ha ripensato? No. Sono scelte, queste sono scelte importanti, sofferte magari come nel mio caso, sì, però vengono assunte nel momento giusto, quando è necessario farlo, e se è necessario vanno mantenute. Quindi insomma non c'è la possibilità di recuperare? No, non credo, perché è una scelta veramente molto ponderata, devo dire anche molto sofferta, sia noi abbiamo cominciato quella attività, vorrei dire quell'avventura, perché mi piace dirlo, perché sapevamo il sindaco ed io e chi stava insieme a noi che avremmo avuto delle difficoltà, quindi grandi entusiasmi, una grande volontà di superare, di dare un apporto, un aiuto, una soluzione laddove possibile. Questo traspare dalla sua lettera che ha scritto Orlando, l'ho letta. Lei dice c'è un contrasto netto tra quelle che erano le nostre ambizioni e quello che volevamo fare, riprendere in mano una città che va risanata perché c'è un buco di bilancio enorme, ci sono anche inchieste della magistratura, della Corte dei Conti sugli sprechi eccetera eccetera, è quello che invece siamo riusciti a fare. Però io le ho chiesto se ci ha ripensato, lei ovviamente mi dice di no. Poco tempo per lottare, per affermare le sue posizioni, Marchetti, perché lei neanche 2 mesi è ammollato. Beh no, ma sembra che sia così, ma non è così. Perché guardi, naturalmente io parlo a un tecnico e comunque io adesso le riferirò cose tecniche. Noi dovevamo approvare un bilancio inizialmente al 31 agosto, poi la norma dello Stato ha stabilito un bilancio pluriennale preventivo, ha stabilito un rinvio al 31 di ottobre, quindi questo bilancio avrebbe condizionato il progetto finanziario, economico-finanziario del Comune nell'anno in corso, nei prossimi 2 anni, quindi quello che si decideva adesso sarebbe stato condizionante, perciò è adesso che bisognava fare, in questo momento, quantomeno in termini progettuali, di percorso da seguire, di premesse da porre, condizioni da far valere, quindi non è questo, era questo il tempo delle decisioni, era questo il tempo delle soluzioni. E non sono arrivate le decisioni che ci volevano. Io ho letto la sua lettera e scusi, dico solo questo a beneficio degli ascoltatori che magari sono all'oscuro un po', di se non hanno letto le cronache locali di Palermo. Lei si capisce che a fronte di questo immane lavoro, diciamo, di risanare questo, quant'è il buco di bilancio del Comune di Palermo? C'è una cifra? Guardi, no, il buco di bilancio del Comune di Palermo è un buco delle partecipate. Io il buco poi è inesatto, dirò forse in termini giornalistici, ma sono delle perdite. Sì. Ci sono delle perdite che si trasmettono, si traducono poi in perdite del Comune. A quanto ammontano? Avrei partecipato sui 100-180 milioni di euro l'anno, ma l'anno progressivamente, quello che conta è un fatto di progressività, perché poi noi dobbiamo porci il problema non di un anno, cioè noi avremmo dovuto impiantare, diciamo, una politica industriale, una politica di riforma industriale, di società partecipate singolarmente deficitarie, che però andavano composte nel mio progetto, andava fatta una connessione, del resto siamo in una logica di consolidamento di bilancio che è una logica di consolidamento statale, quindi di un progetto statale, quindi noi avremmo dovuto connettere queste partecipate, compensare i profili di positività con quelli di negatività, procedere a riforme statutarie, regolamentari, anche normative, progettualmente, naturalmente, con i tempi che necessitano, partendo però, partendo da subito, bisogna sempre comunque partire. Io sono un maratoneta, ossia mi illudo di essere un maratoneta, e io lo so che 42 chilometri sono una distanza lunghissima, però per fare 42 chilometri... Cioè lei fa le maratone oppure sta parlando metaforicamente? No, sto parlando metaforicamente. Io dico che per percorrere 42.000 metri bisogna fare il primo, che sembra una banalità, e lo è, però dà l'idea che bisogna comunque cominciare, sapendo che alla fine c'è il traguardo e che nel frattempo però, probabilmente bisogna questo fare è chiaro, qualcosa. Il tempismo l'ha spiegato bene, però c'è una cosa che non ho chiara. Lei ha ribadito la sua stima a Orlando, lo ha detto all'inizio e alla fine di questa lettera, però io non ho capito chi è che ha sbagliato, se le cose non sono andate come volevate e come voleva lei in particolare, a chi imputa questi errori se non a Orlando, che è il sindaco? No, guardi, io ho chiuso la lettera augurando ad Orlando quello che auguro ad Orlando in quanto sindaco di Palermo, ossia in quanto protagonista del futuro di Palermo. Gli auguro di risolvere il problema. Naturalmente, che cosa ho detto anche, la lettera l'ha vista, occorre, diciamo, che ci sia un management diverso, ossia oggi per me, per il mio modo di vedere, che non è il modo risolutivo, ma è il modo che io ritengo giusto, un sindaco è soprattutto un manager. Ossia la politica oggi è una politica che, sindaco, sto parlando di azienda comunale, l'azienda comunale è un'azienda pubblica, una grande azienda che impone delle scelte tecniche anche sofferte. Oggi questo deve essere il sindaco. Il sindaco deve essere un uomo di grande portata, caratura tecnica. Io non dico che questo non ci sia, io dico che questo c'è senz'altro, ci deve essere. Non c'era, come dicevo io, non c'era come il mio modo di... Non c'era abbastanza per come intendeva lei il ruolo. Io intendo una visione, ha visto la mia lettera, io sono, diciamo, senza essere... io sono un idealista, senza essere una persona che vive di sogni, no? Però gli ideali sono fondamentali, soprattutto quando bisogna soffrire. Ossia c'è da soffrire, ci sono momenti di grandissima difficoltà. In questo momento nel nostro paese, particolarmente a Palermo, bisogna soffrire perché bisogna rinunciare a qualcosa. E questa sofferenza, questa rinuncia è possibile se si crede. se si crede, ossia noi dobbiamo credere innanzitutto nel successo, credere innanzitutto nelle soluzioni, credere che siamo in condizione di farlo, accettando il costo che questa nostra fede laica, civile... Adesso però lei non ci ha più creduto, ci spiegherà, facciamo una pausa per la borsa, ci spiegherà questo sistema delle aziende partecipate, perché non funziona secondo lei come invece dovrebbe, in una logica anche manageriale di un comune come quello di Palermo. Borsa. La Zanzara. 800 24 00 24, tra poco riprendiamo con gli ascoltatori. Siamo sempre in compagnia di Ugo Marchetti, dimessosi qualche giorno fa da vice sindaco e assessore al bilancio del comune di Palermo per come è stato gestito l'avvio dell'attività, soprattutto economica, del comune, ce lo stava spiegando, e c'è questa questione delle aziende partecipate che ammontano una perdite, per, ci diceva, circa 180 milioni di euro. Lei avrebbe voluto, diciamo, dire la sua sulla nomina dei dirigenti e di chi avrà la responsabilità di guidarle, invece su questo è stato escluso, è così? No, guardi, io sì, non ho partecipato alla scelta delle partecipate, questo, questo è un calamburo, però fotografa la situazione, questo però è il nodo, poi alla fine questo è uno dei nodi. Ma perché io dico che, però, essendo le partecipate in genere, tante specie, degli utilizzatori di pubblico denaro, la scelta di... c'è un problema con la linea, Marchetti. La sento perfettamente. Sì, no, invece noi no, abbiamo avuto un momento in cui è andata via. Riproviamo un secondo, se no poi rifacciamo la chiamata. Prego. Volevo dire, appunto, io credo nella partecipazione pubblica di queste forme di attività, credo moltissimo. Io non sono, diciamo, dal punto di vista dottrinario, per una privatizzazione necessaria, obbligatoria, indistinta, no, perché io non individuo necessariamente nel privato una superiorità tecnica, industriale tale o produttiva di servizi tale da essere sicuramente distintamente migliore del pubblico, questo no. Io sono invece, trattandosi di servizi pubblici che hanno intimo riflesso pubblico, servizi cioè comunali, e che sono geneticamente, vorrei dire, comunali, io sono per una partecipazione comunale, pubblica. Questo però significa gestire soldi pubblici con regole di verifica, di incremento o decremento, di valutazione della formazione del prezzo, della qualità dei servizi, della loro efficienza, della partecipazione attiva o un poco attiva o molto attiva del personale, di una verifica di andamento della qualità del personale. Questo significa per me partecipazione, e questo secondo me dovrebbe essere il progetto. E questo invece non è stato fatto. Questo andava fatto ponendo le premesse per farlo, stabilendo i criteri, dando importanza ai criteri, essenzialità ai criteri, ossia il criterio in economia, in diritto dell'economia, in diritto dell'economia aziendale, il criterio fisso diventa regola. Ma invece che criterio è stato utilizzato, Marchetti? Un criterio di piazzare politici, di piazzare... E questo, francamente, guardi, lei mi deve credere, e mi deve credere chi ascolta, io non so nemmeno, francamente, chi siano stati quelli che sono stati, né fotograficamente, né fisicamente, né visivamente, quelli che sono stati nominati. Quello che io... Però scusi, sta dicendo che magari potrebbero essere personaggi illustri, capacissimi. Potrebbero essere i migliori personaggi. Noi dobbiamo però dare evidenza pubblica alle scelte quando pubblico è il denaro che viene investito, quando pubblica l'azienda. Evidenza pubblica ai criteri. Cioè il modo in cui sono state fatte queste scelte che è sbagliato. Queste scelte potrebbero, chissà, io spero, anzi auspico che siano le migliori scelte possibili, ma non è così che si fa in questa democrazia avanzata che siamo noi. Noi siamo un grande paese. Io non credo che in tutti i grandi paesi di grande democrazia... Ma mi scusi, però questo ce lo deve dire, come sono state fatte? Perché se i nomi non sono in discussione, ma è in discussione il metodo... Io non dico che non sono, potrebbero anche essere in discussione, io dico che la procedura... E la procedura usata qual è stata? La procedura è stata, il sindaco ha ritenuto di poterlo fare, lo ha fatto, e io non contesto il soggetto, la qualità del soggetto, perché questo, io non entro in questo, io non sono entrato in questo, io sono entrato... Perché è giusto che sia così, ognuno deve sviluppare il suo ruolo. Se io dico che in un mondo quale è il nostro, io dico che se io gestisco una mia azienda privatamente, io ho il diritto di scegliermi privatamente il mio capo. E questo io risponderò perché rispondo di mio. Ma se io sono il titolare e sono il portatore, l'investito di una pubblica funzione, io parlo di me, Io non farò mai una scelta che non sia partecipata pubblicamente, perché non va fatta. Insomma, il fatto è questo: Orlando si è chiuso in una stanza con qualche segretario di partito, con qualche altro che non era lei, e hanno preso questa decisione lasciandola fuori, e questo non è andato giù. Ma è chiaro, ha già detto tutto Marchetti, non c'è bisogno di spiegare ulteriormente su questi aspetti, mi sembra. L'ultima cosa che io le vorrei chiedere, perché possono essere interessanti, ma sono poi aspetti più tecnici dal punto di vista invece politico e generale, mi sembra chiaro quello che lei ha detto. Lei resta vicino all'Italia dei Valori, oppure no, è amareggiato e si allontana anche politicamente? Sto parlando quando lei... Sì. No, le ho chiesto se lei resta legato all'Italia dei Valori o è amareggiato e quindi, anche se è un tecnico, quindi non è un politico, però che giudizio dà alla fine di tutto questo dal punto di vista politico? La ringrazio di questa domanda, questo deve essere messo subito in chiaro. Io non sono né di Italia dei Valori, né a vantaggio, né contro, né per. Non, io ho fatto, feci queste, io conosco la domanda. Sì, ma non torniamo sul passato. La domanda adesso... Sì. Perché lei mi dice... L'ho presentata chiaramente come un tecnico, Marchetti, sì, ex comandante generale della Guardia di Finanza. Adesso le chiedo, in virtù di questa esperienza con l'Italia dei Valori, che Orlando che l'ha chiamata, eccetera, lei... resta sensibile politicamente, oppure credo che non fosse in disaccordo, perché sennò non ci sarebbe andato. Mi permetta, ma questa è una domanda mal posta. Il sindaco Orlando non è dell'Italia dei Valori, il sindaco Orlando in quanto tale esprime il comune di Palermo, lui esprime tutta la città, questo è un errore. Quello che mi dispiace della mia, diciamo, il rammarico, ecco, il dispiacere per questo comune fallimento è a danno della città, non a danno del sindaco. Un altro discorso, Marchetti, è chiaro che è a danno della città, però c'è anche una questione politica. Lei è stato chiamato a fare il vice sindaco di una giunta che ha un colore politico. Sì, ma lui non ha un colore politico, questo è un'altra... Ma questo lo dice lei, ha un colore politico... Ma non c'è niente di male, lui... Marchetti, le elezioni si fanno in questo modo qua. Ma chiedo scusa, ma non è così, non è così, creda. Non è assolutamente così. Ormai non è stato da 15. Vabbè, non mi convincerà mai, Marchetti, non discutiamo di questo perché non interessa agli ascoltatori. L'ultima domanda che le faccio. Non interessa a nessuno se lei è convinto che non abbia colore politico, io sì. Non importa, guardi, ognuno resta della sua opinione. 5% dei parlamentari, non dei TV. Comunque, vabbè, di chi l'ha votato sapendo che era un politico che ha delle idee. Lasciamo perdere questo aspetto. Io sono stato con lui perché è l'espressione di tutti, non dei TV. Sì, va bene, Marchetti, mi fa fare la domanda o no? La domanda che le faccio è questa. Ecco, lei resta, parteciperebbe a un'altra esperienza politica in un'altra città se la chiamassero come tecnico, visto che evidentemente aveva la qualità per... L'evoluzione di quello che dicevo prima. Io non partecipo per esperienze politiche, questo mi esclude geneticamente. Io partecipo, se a me domani mi dicessero è necessario il tuo modo di essere, di pensare, di operare, per queste finalità, per questo fine, prescinde per me la natura politica, per questo è un errore. Ha risposto, è disponibile ad altre offerte che potessero arrivare per quello che riguarda il suo ruolo tecnico. Io siccome sono un amante delle parole, non si tratterebbe nemmeno di offerte, sarebbe necessità, esigenze. Marchetti, adesso mi contesta tutte le parole. Non è così, mi creda, lei è un splendido giornalista, ma mi consenta. Ma io non sono altri, no? Perché se mi fanno un'offerta e dico di no, io non mi vendo. Ho solo chiesto se lei parteciperebbe a un'altra esperienza politica. Ha risposto, fermiamoci qua perché sennò andiamo avanti tutta la sera a puntualizzare sulle parole, non ha senso. Marchetti, va bene, abbiamo capito qualcosa di più, credo, sulla situazione di Palermo. Grazie. Lei adesso che fa? Torna al suo... No, lei cos'era? In pensione come finanziere? L'abbiamo perso, vabbè, non era destino che questa intervista finisse in un modo civile. Grazie comunque a Ugo Marchetti. 19:42, torniamo agli ascoltatori. Giuseppe da Bergamo, buonasera, prego. Buonasera, dottore. Eccoci qua. Mi sente? Sì, forte e chiaro. Ecco, prima ero a Bergamo, sono un camionista, adesso sono a Milano. Volevo intervenire per De Magistris sulla questione del quartiere a luci rosse. Ma De Magistris si deve informare, deve andare, non so, in Olanda ad Arnhem, deve andare in Germania a San Paoli deve capire che non sono dei quartieri per così per le prostitute, per raccoglierle, ma è un quartiere dove queste persone qui pagano le tasse, ci sono servizi sanitari, capito? E non ci sono residence, ci sono dei monolocali. Dice lei, come fa a saperlo? Perché ci sono stato. Sì. No, ma addirittura Giuseppe ha ragione, perché anch'io gli ho chiesto a De Magistris se pensava a Amsterdam, poi sembrava, ha detto, faremo delle zone dove controllare, parlare con le prostitute, cioè, allora quello non è il quartiere a luci rosse di Amsterdam, dove non c'è questo tipo di intervento, c'è una gestione alla luce del sole, in trasparenza, tutto da questo tutto punto di vista, tutto certo. Però tutto lasciato a se stesso, e quindi non si capisce bene se... E poi anche la questione che vuole fare... una strada per le coppiette che si separano, che si appartano per essere più tranquille. Che vogliamo fare? Il bordello di Gran Napoli? Che è sta cosa? Vuole fare tanto le emancipate e poi fare le cose che non si offendono i napoletani, ma la napoletana... queste cose qua, e poi per fare un quartiere a luci rosse, mi scusi se sì? mi permetto, si dovrebbe cambiare la legge, perché in quei paesi lì, se c'è una prostituta in un angolo della strada, viene arrestata, perché la prostituzione non è ammessa libera alla luce del sole, così, perché quelli sono atti osceni in luogo pubblico, vestite succinto e adescamento. Va bene, Giuseppe. Grazie, alcune delle sue perplessità gliele abbiamo girate, poi a De Magistris qualche particolare in più è venuto fuori, ma insomma si tratta di un progetto sperimentale, non è ancora un progetto, ha detto che si valuterà il Consiglio Comunale se dare vita a un progetto sperimentale, bla bla bla bla bla, potrebbe anche restare una boutade estiva, intendiamoci. Dario da Padova, buonasera, prego. Sì, buonasera. Innanzitutto volevo darle fare i complimenti per la conduzione, però voglio dire che anche il Cruciani e Parenzo sono con uno stile diverso, ma sono molto piacevoli anche loro, insomma, ecco, solo quello volevo dire. Ma certo, c'è posto per me che faccio fare le vacanze a loro, è questo il concetto, no? Dario, prego, sì. Qualcun altro piace un altro, insomma. Sì, sì, no, ma è così, per continuare a fare il programma, per far fare le vacanze anche a loro, è questo quello che noi decidiamo di fare qua a Radio 24 e siamo felici che piaccia prima, durante e dopo, questo tanto per così per puntualizzare, ma non c'è niente da puntualizzare. Prego, Dario. Allora, io volevo fare questa affermazione qua, no? Che le tasse, è giusto pagare le tasse, molto giusto pagarle. È giusto pagarle, però se alla fine mi portano un servizio di pubblica utilità. Pagare e finanziare uno spreco invece non è piacevole per nessuno. Cos'è che voglio dire? Voglio dire che quando il dirigente, il nostro presidente del Consiglio, che è il più alto dirigente dello Stato italiano in questo momento qua, dovrebbe cominciare a tagliare gli sprechi prima di aumentare le tasse. Va bene, Dario, gli sprechi questo governo, come anche altri, hanno fatto annunci. Mi ricordo l'anno scorso si commentava il taglio dell'accorpamento dei comuni, poi non si sa esattamente che fine ha fatto. Quest'anno si parla delle province, c'era stato lo spending review. Qualcosa sta facendo il governo Monti sul fronte del taglio della spesa, poi non basta mai. Dopodiché sul fatto di aspettarsi un equivalente di servizi dietro il pagamento delle tasse, questo mi sembra scontato. Altra cosa è l'evasione che non va fatta, punto e basta. Abbiamo il nostro ospite, sì, Renato Ranieri, consigliere comunale a Pescara. Buonasera. Salve, buonasera a voi. Ranieri, per commentare, facciamo sentire subito lo spot, adesso glielo faccio sentire, che hanno fatto per prendere un po' in giro, lei l'aveva già sentito. La notizia qual è? Allora, io riepilogo brevissimamente, poi le do la parola. Il Pescara Calcio quest'anno non concederà più al comune, credo, 150 abbonamenti gratuiti per consiglieri, assessori, portaborse e quant'altro per il comune, però voi non vi arrendete, di qui lo spot ironico dei tifosi del Pescara che adesso sentiamo, però voi non vi arrendete e chiedete di entrare comunque allo stadio, però tirate in ballo un regolamento comunale per andare a verificare quello che accade dentro lo stadio per questioni di servizio, di sicurezza, eccetera, eccetera. Adesso lei mi dirà che non è vero, che io ho distorto, però sentiamo prima lo spot. Immagina per un attimo chi non potrà vedersi l'Inter, il Milan, la Juve. Alcuni addirittura attendono la Lazio. Poverini, fai qualcosa per loro. Aiuta un consigliere comunale di Pescara ad entrare gratis allo stadio. Tu tifoso sei fortunato. Hai potuto pagarti l'abbonamento, il voucher o il biglietto. Loro no. Aiuta un consigliere comunale ad entrare gratis all'Adriatico. Campagna di sensibilizzazione a sostegno dei poveri indigenti, consiglieri comunali di Pescara. Si consiglia di prendere una pasticca per il fegato dopo aver visto questo spot. Ranieri non si è offeso, no, per questa cosa qua? No, assolutamente no. Conosco Luca Teseo e gli altri amici che hanno fatto questo spot e sono un amante della satira, per cui non me la prendo sicuramente. Anche. Ecco, benissimo. Però cominciamo a precisare. Però è lontana dalla realtà. E perché è lontana dalla realtà? Ma guardi, la questione nasce, le dico subito, ma innanzitutto la questione vera si collega un po', fa il riassunto su tutti gli interventi che ho sentito fino adesso, ascoltando il vostro bellissimo programma, che ascolto sempre comunque, perché comunque bisogna fare i conti su quello che è la realtà, cioè si è parlato prima, l'ex collega Michetti da Palermo ha parlato del comune, che oggi bisogna considerarlo come un'azienda pubblica, in pratica deve fare i conti con le proprie risorse, le proprie disponibilità nel fornire servizi il più possibile migliori e efficienti alla collettività, con le proprie risorse, e le risorse sono molto molto molto ristrette. Queste risorse, la maggior parte, sono quasi tutte, sono imposte che pagano i cittadini, quindi tutta la città. Ma veniamo alla questione degli abbonamenti che vengono concessi gratuiti, adesso non ci sono più. Fa bene la Pescara Calcio a non darsene, ma soprattutto la Pescara Calcio, che il giorno 18 ha pubblicato un articolo nel quale, appunto, sulla stampa diceva, appunto, rendeva noto che non dava più gli abbonamenti, 150, che presumibilmente l'amministrazione comunale avrebbe richiesto. Innanzitutto a noi non ci risultano che l'amministrazione comunale abbia richiesto 150 biglietti. Chiediamo alla Pescara Calcio ancora ad oggi di farci sapere chi sono questi nomi, perché noi comunque mettiamo caso che la Pescara Calcio sia onorata di averci ospiti, però non li vogliamo, perché adesso dire non li abbiamo chiesti, qualcuno li usava, lei l'ha mai usato quell'abbonamento? Secondo me lei l'ha mai usato, Ranieri, questo abbonamento in passato? E non ho capito, scusi la domanda. No, dico, qualcuno li avrà usati questi abbonamenti, anche se non sono stati chiesti formalmente, era un cadeau. Lei l'aveva mai usato questo abbonamento gratuito, per esempio? Io l'ho usato l'anno scorso, se dico la verità, perché mi è stato richiesto da parte della segreteria, insomma, del consiglio comunale, ma non 150, l'ho usato, mi è stato dato e l'ho usato. Allora lo vede però che lo avete usato, quindi anche se non era richiesto, se non lo volevate bastava non usarlo, questo mi sembra chiarissimo. Va bene, perfetto. Ma infatti e questo punto ce l'abbiamo, un punto l'abbiamo segnato, quindi non è un problema del fatto che non fosse stato richiesto, era gradito questo abbonamento, che adesso però non c'è più. Allora, però la questione è un'altra, mi consente veramente di fare chiarezza, perché sennò veramente passa per quelli che chiediamo i biglietti gratis. No, tra l'altro voglio dire una cosa, poi le lascio parlare. Spezzo una lancia a favore di Renato Ranieri, consigliere comunale PDL a Pescara, che è venuto qua questa sera a parlare, non solo perché è venuto a parlare, questo è sempre positivo, ma perché questa cosa qua degli abbonamenti ai comuni, non vogliamo dire ai politici, ai comuni, perché poi gli stadi sono comunali in molte città, è un intreccio che c'è in parecchie città. Adesso in tempi di austerity le cose stanno un po' cambiando, quindi non è un problema solo di Pescara, è una questione che riguarda... Prego, cosa stava dicendo? Perché... No, allora, questione è questa, cioè la nostra polemica nasce appunto perché è giusto che esca fuori quanto costa alla collettività la vera casta del calcio, ok, del sistema calcio. Le spiego. Da anni, io innanzitutto sono un consigliere comunale abbastanza giovane, diciamo ho quasi 40 anni, però mi reputo giovane, e sono stato eletto 3 anni fa. Noi oggi, io personalmente, per esempio, che adotto una politica, quella di veramente cercare di cambiare le cose, soprattutto in questo periodo in cui veramente viviamo tutti in un momento di difficoltà, in questo momento in cui si vogliono cambiare le cose, noi paghiamo lo scotto di una vecchia politica corrotta, malata, non so come definirla, col quale non si andava a richiedere il giusto al soggetto privato che faceva calcio, per esempio nella città di Pescara, al fine di avere dei benefici che potevano essere biglietti, eccetera, eccetera. Oggi questa è una storia che deve finire. Perché? Cioè, perché Pescara Calcio non paga abbastanza per lo stadio, per l'uso dello stadio? Questo che sta dicendo. La collettività oggi non è in grado di sostenere il lusso di fare calcio a quei costi, cioè la collettività di Pescara non però adesso può pagare, lo dice, scusi Ranieri, voi lo dite adesso, prima non lo dicevate, quando vi davano gli abbonamenti gratuiti questa questione non l'avevate sollevata. Mi faccia chiarire, cioè nel senso, non l'abbiamo detto, lo stiamo dicendo, ma non solo noi amministrazione eletta nel 2009, ma anche le amministrazioni precedenti, e da anni che si dice e si fa questa battaglia contro questa o quella società che gestisce la società Pescara Calcio. Ma da anni che o incontravano il politico che si accontentava di un pacchetto di biglietti, o non si voleva affrontare il discorso per evitare appunto che, essendo che la società di calcio ha il coltello dalla parte del manico, potesse muoversi come si è mossa, poi effettivamente si può vedere in questi giorni, si è sempre lasciato stare. Io capisco, probabilmente le società di calcio avranno il coltello dalla parte del manico, però allora anche lei dovrebbe fare autocritica sul fatto che ha usato questo abbonamento. Lei dice qualche politico che si è accontentato di questo per non andare oltre. Io non so se questo è il suo caso, però lei l'abbonamento l'ha usato, quindi adesso che fa autocritica? Forse sì, non è stato corretto. Innanzitutto io voglio essere coerente con me stesso soprattutto. Cioè, se devo fare autocritica la faccio molto volentieri, però devo dire anche... Ma la fa? È disposto a farla? Oppure... L'abbiamo detto sin dall'inizio, sì. Ma non solo io, meno male che ci sono anche gli altri. Tutti quanti lo stiamo dicendo dall'inizio. Perché? Non mi faccio finire. Perché la società Pescara Calcio oggi, no? Sottrae risorse alla collettività di Pescara. Vedi, parliamo di spendere più. Spendere più è quando il politico, in questo caso, spende, ok, sottrae alla collettività delle risorse che provengono dalle tasse, quindi l'auto blu, troppe auto blu, tanto paga la collettività, bassa auto blu, tutti i privilegi che ci sono della politica. In questo caso è il contrario, cioè la casta. Però mi scusi, la casta calcio, ma gliel'avete consentito voi, scusi, consigliere, è il comune che gliel'ha consentito al Pescara Calcio di... c'era un doppio danno, da una parte si chiedeva troppo poco, questo è quello che dice lei che dite voi consiglieri al Pescara per questi diritti d'uso eccetera, dall'altra ci si beccavano pure gli abbonamenti gratuiti, quindi il danno era doppio per il cittadino, ma la causa però, mi scusi, ma eravate voi. Il danno doppio perché si chiedeva, uno lo ha evidenziato lei, cioè si chiedevano pochi tributi che sono soldi che vanno nelle casse pubbliche, quindi diciamo chiedevate a un privato meno di quello che era dovuto e quindi facevate un regalo, ma lo facevate voi, ma però parliamo di istituzione comune, Primo, sì, diciamo, voi nel senso per lei adesso è in comune e quindi titolare della sua parte di responsabilità, mi dispiace che ricade tutto su di lei, però E in più c'era anche il privilegio a vostro favore dei biglietti gratuiti, quindi in questo senso il danno era doppio ai danni del cittadino che invece pagava l'ingresso, pagava il biglietto e nemmeno vedeva pagato il giusto tributo. Una cosa fondamentale. Sì. Io l'abbonamento quest'anno me lo sono andato a fare in tempi non sospetti, le dico anche la verità. Anche, guarda, meno male sentendoli a voce, io non ho avuto il riscontro, però sentendo perché li ho incontrati, li ho visti, li ho chiesti, eccetera. Su 40 consiglieri comunali qui a Pescara, guardi, sicuro una ventina si sono fatti l'abbonamento, ripeto, in tempi non sospetti, di proprio, se lo sono pagati, eccetera, eccetera. Guardi, le dico io, una buona decina non va allo stadio, non c'è mai andato perché non gli piace il calcio, non ne capisce niente, eccetera, eccetera, ok? Io voglio sapere, di questi 150, no? Considerato che a me l'abbonamento non me lo possono dare perché comunque il nominativo mio risulta ormai già da tempo negli archivi, quindi non possono fare il doppio nome sull'abbonamento, anche degli altri. Io voglio sapere chi l'ha fatto questa richiesta. Di fatto già è nulla, quindi il mio nome là sopra non ci dovrebbe stare, o quantomeno la Pescara Calcio non potrebbe farmi sto regalo, diciamo così, chiamiamolo così, perché non è in grado di farlo. Quindi però fino all'anno scorso l'ha fatto, quel che ci ha detto lei. Come, sia, come funzionasse non lo so, però questo è quello che... Poi saranno andati, non lo so, agli amici di qualche altro assessore, Non so se lei ha mai fatto andare qualche amico. Infatti, devo dire la verità, molti sfruttano questa situazione per darle a chi magari non si può permettere di andare a vedere la partita, l'amico che, che magari in quel momento non si può permettere di pagare il biglietto, cioè, ma quante volte l'ho fatto pure io, non è quello. Ah, quindi vede, alla fine questi abbonamenti, lei mi dice, chissà dove andavano, andavano a persone come lei che portavano anche amici. No, no, quell'abbonamento, non che ce ne sono. Ah, lo stesso abbonamento che lei prestava, certo, ad altri, sì, certo, sì. No, no, no, quello era, certo. Però il discorso, per favore, cioè, ci aiuti a fare... Vedete, guardi, facciamo così, resti in linea, facciamo una pausa che dobbiamo fare prima delle 20 e poi chiudiamo, facciamo magari un appello a che questo non succeda più, che il Comune chieda i giusti tributi alla Pescara Calcio e che tutti vissero felici e contenti. Tra un attimo. La Zanzara. 800240024 per gli ascoltatori. Tra pochissimo siamo sempre in compagnia di Renato Ranieri, consigliere comunale a Pescara. Quasi quasi, Ranieri, mi dimenticavo la cosa più bella, perché adesso l'abbiamo chiarito tutta questa questione degli abbonamenti gratuiti che non ci saranno più per i consiglieri e per altri. Non ci devono essere consiglieri, vanno a chiedere. No, però non ci devono neanche essere consiglieri che poi ci vanno, invece di restituirlo come sarebbe stato forse più corretto. Noi non abbiamo ricevuto abbonamenti, quindi non... Vabbè, lei, non so, dove lo prendeva questo abbonamento? Chi glielo dava? Non ho capito, scusi. Dove lo prendeva lei questo abbonamento? Gli arrivava dal cielo? Negli anni passati, cioè l'anno scorso, per esempio, sì. No, ci veniva fornito, sì. Insomma, lei lo sa che l'abbonamento lo emette il Pescara Calcio, no? Non il segretario comunale, quindi lo sapeva anche lei da dove. Però la cosa più bella è questa, perché io ho letto sul giornale, c'è un trafiletto oggi anche credo sul Libero forse era, che voi adesso chiedete il rispetto di un regolamento comunale per poter entrare comunque nello stadio per questioni di servizio. Però perché chiedete adesso questa cosa qua? È perché adesso è uscita la questione. Guardi, le faccio Ma volete andare a vedere le partite comunque? Allora, cancelliamo dal calendario la domenica che si disputano... Se ci sono le gare, o il sabato se ci sono altre gare, cioè, insomma, cancelliamo dal calendario. Togliamo questi giorni dal calendario. Da sì. Allora, perché è successo poco tempo fa, dei dipendenti del comune, ok? Si sono recati presso lo stadio Adriatico in giorni normali, non ricordo se giovedì o mercoledì, no, per fare degli interventi, e non sono stati in grado di entrare nello stadio perché non erano autorizzati dalla Pescara Calcio. Vabbè, questo in giorni, diciamo, in cui non c'è la partita, se c'è un regolamento comunale che prevede questo. Voglio poter accedere allo stadio Adriatico lunedì alle 9, martedì alle 16. Ma per far cosa in uno stadio vuoto dove non c'è niente? Guardi, le faccio un esempio. Oggi i colleghi del Partito Democratico hanno fatto l'accesso, ok? Sì. Le dico solo una cosa. Ovviamente sono entrati perché dopo la polemica non hanno trovato ostacoli e hanno trovato che la Pescara Calcio sta facendo dei box, no? Particolari, non ho capito, comunque dei box per particolari, creare dei particolari settori VIP, chiamano loro, in tribuna, no? Dove magari chiuderli, mettere televisori, non so cosa, sì, senza disporre di autorizzazione e quanto altro. Vabbè, questo però se fanno questo che non è... noi quello diciamo. È un illecito, verrà sanzionato. Se noi sì. Non abbiamo il libero accesso, non possiamo entrare. Va bene, però, allora, escludiamo che queste ispezioni avvengano proprio durante la partita? Assolutamente, no, ma lì il regolamento dice anche durante la manifestazione e noi provocatoriamente... Ovviamente ci mettiamo anche quello, ma ovviamente a noi ci interessa svolgere il nostro ruolo, se lo vogliamo fare e lo dobbiamo fare perché il nostro è un dovere, non un diritto, sì. Quello di accedere nelle strutture pubbliche, in particolare lo stadio, dato che lo stadio è un bene della collettività, in questo momento è veramente il centro, il fulcro dell'attività qui a Pescara, perché comunque è importante che sia tenuto e manutenuto adeguamente. Ovviamente questo ha un costo, quindi se si fulmina un faretto, un faro del pilastro lì dello stadio, costa alla collettività parecchio, non costa poche lire, dobbiamo sapere perché si è rotto, chi l'ha rotto, se ci sono problemi con gli incendi, se sono problemi causati, eccetera, perché cioè, non intervenire nel merito, cioè non andare a vedere perché si fulmina un faretto che costa alla collettività 1000 euro andarla a rimettere, significa essere stupidi. Vabbè, però questo è diverso rispetto a quello che si intendeva da questi articoli sembrava che fosse visto il passato, sa, Ranieri, non è che a pensare male si fa peccato ma non si sbaglia, diceva qualcuno, ma adesso lei ci ha garantito che le ispezioni avverranno fuori dall'orario della partita e che per andare alla partita pagherete il regolare biglietto, neanche a mettere in difficoltà la questura per ordine pubblico deve garantire la sicurezza non solo ai spettatori, sì, ma anche anche noi se vogliamo fare l'accesso deve garantire la sicurezza. Guardi, l'accordo col Pescara Calcio lo può fare il comune, quindi lei è consigliere comunale, è titolare per lavorare su questo, perché la Pescara Calcio deve essere cosciente che non può a quei prezzi fare business alle spalle della collettività di Pescara, perché non è possibile. Glielo ripeto, Ranieri, questa cosa si poteva dire anche prima, quando vi regalavano gli abbonamenti, non adesso. Stiamo dicendo da tempo, sui giornali c'è andata prima la Pescara Calcio, poi non abbiamo potuto rispondere, purtroppo serviva forse far passare il messaggio che Ranieri prende il biglietto, ha fatto tutto il suo casino. No, ma non è un messaggio, era un fatto, e quindi era giusto dirlo. Sicuramente se avesse rifiutato l'abbonamento gratuito oggi sarebbe più credibile. Mi scusi, ma questo io glielo devo dire, perché se lei avesse rifiutato di andare gratuitamente allo stadio, il biglietto glielo pagava il Pescara Calcio, io oggi la sua battaglia contro il Pescara Calcio perché faccia tutto quello che deve fare regolarmente, ci crederei di più. Adesso bisogna recuperare un po' di credibilità, sa. Certo, ma io le dico soltanto una cosa in chiusura, sì, se deve chiudere. Io oggi ho letto, questa mattina ho letto, appena mi sono svegliato, la notizia appunto che la giustizia sportiva ha condannato definitivamente, non pare, Conte a 10 mesi di squalifica. L'opinione pubblica, siccome il povero, chi ha fatto il suo mestiere della giustizia sportiva, Palazzi, ha fatto il suo dovere, appunto. L'opinione pubblica, secondo lei, se adesso vai ai tifosi della Juventus, no? Giusto? Se vai ai tifosi della Juventus e chiede, ha fatto bene Palazzi? Cioè, ha fatto bene il suo dovere? Sai che passa? Allora, che Conte è il povero che ci passa di mezzo, eccetera, e Palazzi con il quale si è ammattito, si è stupidito e ha fatto chissà che cosa ha fatto. Qui è una questione che se andiamo contro un certo sistema, purtroppo ci rimette il debole siamo noi, coloro i quali gridano contro questo sistema. Vabbè, non fa niente, passiamo, e come diceva anche lo stesso Michetti, no, ex collega di Palermo. Ma lei, scusi, lei dice che lei è il debole per Pescara Calcio, io glielo ripeto, se lei è il debole, perché ha accettato l'abbonamento gratuito l'anno scorso, se voleva fare una battaglia contro? Mi scusi, Guarda, l'ho accettato e pagherò per questo. Ma non che pagherò, cioè lei adesso rivendica di fare una battaglia legittima contro il Pescara Calcio, però intanto si beccava l'abbonamento gratuito e non è credibile, questo è il punto. Adesso che non ci sarà più questo, la sua battaglia sarà più credibile. Non ci sarà più, chiaro, perché in questo momento non ci sarà più, ma non ci stava. Non so come dirglielo io più di questo, comunque. Non grazie. Ci sta già da giugno, perché il momento in cui la Pescara Calcio ti dice io il canone non te lo pago, ovvero te lo pago se mi fai dai quasi il campo gratis, eccetera, io l'abbonamento non sono in grado di accettarlo. Anche se tu non me lo vuoi offrire, dici guarda, ti voglio ospitare. Ma no, ma è proprio una cosa che non si deve più fare, ha capito? Non si deve fare. Da nessuna parte, perché non si vede perché il consigliere comunale deve avere l'abbonamento. Forse perché in tribuna si va a prendere voti, però uno se lo paga l'abbonamento e va a prendere i voti che deve. Ma lo stesso discorso deve valere per il consigliere comunale soprattutto, l'assessore, ma anche guardi, deve valere per tutti, e su questo sfonda la porta aperta. Noi abbiamo chiamato lei perché lei era in mezzo a questa questione. Grazie, fermiamoci qua perché sennò ammorbiamo gli ascoltatori su questa storia di Pescara. Renato Ranieri, grazie. Grazie a voi. Consigliere comunale, e la storia, la vicenda l'avete capita benissimo. 800 24 00 24, titoli del TG1. Incontro Juncker Samaras, il premier greco, riavrete i vostri soldi, l'Eurogruppo avverte Atene, ultima chiamata, intanto anche l'Europa promuove l'Italia. Estate bollente anche al distributore, la benzina sfonda i 2 euro al litro, rientro amaro per gli italiani in vacanza. Calcio, scommesse confermati, 10 mesi di squalifica da Antonio Conte, il presidente juventino Andrea Agnelli, processo sommario e barbaro. In Siria, bombe dell'esercito ed esecuzioni sommarie a Damasco, allarme UNICEF, sono migliaia i bambini in fuga dalla guerra. Potrà riprendere la cura con le staminali la bimba di 2 anni affetta da una grave malattia, lo ha deciso il giudice di Venezia. Caldo da record, domani bollino rosso in 14 città, ancora incendi in tutta Italia, gravi le conseguenze sull'ambiente. Il ritorno di Alice si intitola Nata ieri, il nuovo disco della cantante scritto per lei da Tiziano Ferro, e sulla sua strada l'artista ritrova anche un'antica collaborazione con Franco Battiato. Eccoci qua di nuovo, riapriamo l'ultima sessione con gli ascoltatori. Fabio da Modena, buonasera. Buonasera, buonasera. Prego. Dunque, io sono un ingegnere libursinista della provincia di Modena, quindi mi sto occupando della ricostruzione del post terremoto. Sono anch'io terremotato con l'ufficio in zona rossa, quindi diciamo, sono nel pieno del cratere, ecco. Quindi io volevo solamente così fare una fotografia del momento, perché diciamo, sempre sparando sui politici, purtroppo questo è, sono passati 3 mesi e il nostro commissario all'emergenza, Errani, come ben sapete, che oltre ad essere commissario è ovviamente anche presidente di questo e presidente di quest'altro, quindi mi chiedo anche se non si potesse cercare una persona un po' più libera, diciamo così. Ha emesso 0 ordinanze, ripeto 0, sulla questione dei contributi per la ricostruzione. Quindi è uscita una sola ordinanza, la numero 23 del 14 agosto, che dice mi permetto di dire 2 cavolate in croce, un copia e incolla rispetto ad altre normative, che non ci aiuta per nulla. Quindi io mi sento anche di fare un po' da così apri fila con mi sento di parlare anche per gli altri professionisti del mio settore, perché siamo veramente imbarazzati nei confronti dei nostri clienti, non sappiamo veramente come procedere, perché ripeto, le regole sui contributi non ci sono, non si sa quanto verrà dato ad ogni tipologia di abitazione in base alla inagibilità, al grado di inagibilità di un'abitazione, non ci sono i tetti di spesa su appunto le inagibilità. La regione si è inventata una suddivisione fra le inagibilità pesanti e non ci ha spiegato questa suddivisione in base a cosa viene fatta. Non sono state fatte nessuna deroga al TRG, questo può essere una cosa tecnica ma è facilmente spiegabile, nel senso che se uno ha un'abitazione tipicamente di campagna, una classica pianta 10x10 metri, alta 3 piani, e ci abitano 2 persone anziane, la casa è disfatta, e adesso i regolamenti comunali permettono solo la demolizione con fedele ricostruzione, e chi ce li ha i soldi per rifare una casa 10x10 alto 3 piani? Nessuno, quindi si aspettano deroghe per cercare di abbassare le abitazioni. Va bene, grazie Fabio, che devo dire, non è che ci sia molto da aggiungere a quello che lei ha detto. TG della 7. Giornata cruciale ad Atene per gli sviluppi della crisi greca. Nell'incontro con Juncker, il premier Samaras chiede più tempo per le riforme e assicura: vi restituiremo i prestiti. Ma il presidente dell'Eurogruppo ribatte: nessuna decisione prima di ottobre, aspettiamo il rapporto della Troica. E in vista dei colloqui di domani tra la cancelliera Merkel e il presidente francese Hollande, i mercati europei chiudono tutti in negativo. Spread BTP Bund di nuovo sui 420 punti. Venerdì il primo Consiglio dei Ministri dopo la pausa estiva. In primo piano le proposte anticrisi. Spiccano tagli e riorganizzazione al traffico aereo, sconti fiscali per le aziende, nuove misure anticorruzione. Anticipazioni che il presidente di Confindustria, dopo le critiche, approva. Massimo storico per la benzina verde, che sfonda il muro dei 2 euro al litro fuori dalle autostrade. E proprio in vista del controesodo di venerdì, una speculazione, accusano le associazioni di consumatori. I rincari peseranno per circa 800 euro l'anno su ogni famiglia, un effetto valanga nelle tasche degli italiani e sulla ripresa economica. Crisi Alcoa in Sardegna, gli operai protestano contro la chiusura degli impianti della multinazionale americana a Porto Vesme e occupano per 2 ore le vie d'accesso all'aeroporto di Cagliari. In gioco centinaia di posti di lavoro e l'economia di un intero territorio, ma quella dell'Alcoa è solo un anticipo dell'autunno che verrà. Sono ben 131 le vertenze con i tavoli già aperti al Ministero che riguardano oltre 160.000 lavoratori. Ci sarebbe un accordo tra i partiti più importanti sulla legge elettorale, una legge proporzionale con soglia di sbarramento al 5% e premio di maggioranza al partito prevalente. Si torna a parlare di urne a novembre in Sicilia, con la scelta dei candidati Musumeci per PDL Autonomisti La Destra e Crocetta per l'inedita coalizione PD-UDC, si gioca la prima partita sulle alleanze che potremmo forse vedere a livello nazionale. Confermata in secondo grado la squalifica di 10 mesi all'allenatore bianconero per omessa denuncia, prosciolti Pepe e Bonucci, dura reazione della società. La giustizia sportiva è una caccia alle streghe, la sentenza conferma i peggiori sospetti, scrive in una lettera sul sito il presidente Andrea Agnelli. Pronto il ricorso al Tribunale del CONI. La Zanzara. 824 0024 per intervenire in diretta, ci ha chiamato Anna da Firenze. Buonasera. Buonasera. Qualcosa Prego. Che non cambia dalla condizione di Rosciano e lei, sono sempre in attesa. Dalle 19:30. A lei in attesa da un'ora. Sì, vabbè, capita per intervenire. Succede. No, io volevo tornare ai discorsi dell'anomalia dei sindaci. Sì. Allora, io ero in Romagna, in villeggiatura, a Cervia, vedo un cartello davanti a un bagno dove c'è scritto che sarebbe intervenuto il 13 di agosto Renzi. E ho detto, uno scherzo forse, Renzi in Romagna, e invece era vero. Ha varcato il confine della Romagna, Renzi. Io capisco che si faccia la propaganda personale per le prossime elezioni. Ha scritto un libro, Renzi, quindi sta andando in giro. A Firenze, c'è tanto Anna. Venire a fare tutti questi discorsi su un bagno, bagnulisse della Riviera Romagnola. Proprio non ci sente. Anna. In Cervia mi sembrava anomala. Va bene. Grazie Anna, adesso glielo dico mentre ascolta, ha scritto un libro Renzi e quindi va in giro anche presentando questo libro sicuramente, però lei da cittadina di Firenze ha espresso i suoi dubbi su questo, un tema che avevamo lanciato poco fa. Paolo da Milano, buonasera. Buonasera, le tesserine del Pescara, gli stipendi dei politici, le pensioni dei politici, secondo me ci stiamo focalizzando su argomenti che alla fine nel bilancio statale contano poco o niente. Sacrosanti argomenti e sacrosante parole, secondo me, sono state. Lei dice, lei date... è convinto che invece non sia questo mare di debito pubblico non sia una serie di rivoli che portano in tante direzioni, anche vicino a casa nostra. Ci arriviamo. Io vorrei dire questo: che sono state sacrosante le parole dell'ex dirigente del comune di Palermo. Le partecipate, lì dovremmo andare a controllare che fine fanno i nostri soldi. Io mi riferisco a Penati, sappiamo benissimo che cosa ha fatto con la Serravalle. Mi riferisco, che ne so, anche il signor Renzi ha sperperato quando era alla provincia circa una 20 milioni di euro. Insomma, non ci sono degli organi di controllo che vanno a vedere esattamente, o perlomeno che abbiano un'idea di quello che i nostri soldi dove vanno, che cosa ci facciamo con questi però soldi, voglio puntualizzare una cosa, perché ho visto anche 400, scusi Paolo, dico una cosa poi la faccio proseguire, perché ho visto anche alcuni messaggi dice non concentriamo l'attenzione sull'abbonamento del consigliere comunale, sono piccole cose rispetto alle partecipate. Benissimo, le partecipate valgono molto di più in termini di milioni di euro. Però mi spiega come fanno i politici che sono responsabili a controllare le aziende, le municipalizzate, le concessioni, come nel caso del Pescara, se poi si fanno dare l'abbonamento. Questa siamo quasi al limite della corruzione, capito? È questo il punto, al di là dei 50 euro dell'abbonamento. Cioè, secondo lei è credibile uno che vuol far pagare i tributi al Pescara Calcio, che si fa pagare l'abbonamento per andare in tribuna? Ma di queste cose purtroppo ce ne sono a decine, purtroppo, di queste sono delle vere e proprie ingiustizie. Olanda, prendiamo ad esempio un attimo l'Olanda. Due mesi prima che ci siano delle elezioni, qualunque esse siano, quindi mi riferisco al piccolo comune o le amministrative, c'è un organo di controllo che dice, allora, il tal partito ha tal programma. Con questo programma poi fanno i controlli, al PIL succederà questo, il costo delle famiglie succederà quest'altro, alla benzina, e questo io credo che avvenga un pochino in tutti gli investimenti che chi di dovere deve fare. E in Italia questo manca. Io faccio parte io sono un medico, la mia cassa è l'EMPAM, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale dei Medici. Quest'anno hanno comprato titoli tossici per 500 milioni di euro. Chi ha controllato questi signori dove andavano a investire? Nessuno. Questo secondo me è un grosso problema che non so se si potrà mai risolvere, non lo so. Ad oggi poi sono... Un'ultima cosa, sì. Dall'Olanda e dalla Germania dovremmo copiare anche le leggi sulle prostitute, perché quelle signore portano circa 10 miliardi di euro nelle casse dello Stato. E certo, noi facciamo una caccia alle streghe. Sì, sì. Noi spendiamo milioni di euro per che cosa? Per cercare di combattere il mestiere più antico del mondo. Assurdo. Va bene, grazie Paolo. Grazie a lei, buonasera. Buona serata. Diego da Udine, prego. Buonasera. Io tornavo sulla questione dello stadio, perché sì. Io sono stato consigliere comunale fino a poco tempo fa per alcuni anni e devo dire che noi come consiglieri comunali avevamo il diritto ad andare allo stadio perché c'era la convenzione con l'Udinese Calcio che prevedeva questa cosa. Progressivamente però è stato tolto, come sono stati tolti, ci siamo tolti, i biglietti del teatro per esempio, gratis 2 biglietti al teatro comunale a ogni spettacolo. Avevamo i parcheggi in centro gratuiti, ce lo siamo tolto, ma perché? Perché semplicemente col crescere delle situazioni generali di, diciamo così, di giusto additamento dei pubblici amministratori di essere pieni di privilegi, non si può soltanto criticare gli altri, no? Perché per esempio i parlamentari entrano negli stadi gratuitamente in tutti gli stadi d'Italia perché hanno la testa del CONI e sono 1000, probabilmente sono più parlamentari che vanno a vedere le partite di Serie A che consiglieri comunali, ma non è lì il punto è quello di dire facciamo quel piccolo che va fatto per dimostrare che i cittadini che si presentano alle elezioni e prendono i voti lo fanno con uno spirito di servizio vero e con un gettone di presenza che non paga nemmeno le spese telefoniche, e questo una città insomma evoluta anche calcisticamente come Udine lo ha fatto, per cui mi sembra incredibile che si continuino a richiedere privilegi che poi sono, scusi il termine, uno sputtanamento globale per una cifra ridicola. Va bene, uno grazie Diego. Se vuole andare allo stadio ci va, si paga il suo biglietto, si fa la sua campagna elettorale e come ha detto giustamente lei è al limite della non dico corruzione, un termine, però di una pressione molto forte. Se poi le società sportive vogliono invitare il sindaco, lo invitano ed è giusto, il sindaco va bene. Ma non deve essere un must, cioè non deve essere una cosa automatica, perché toglie potere anche di controllo, proprio quel controllo che diceva il consigliere comunale prima di Pescara. Ma certo, è evidente, se uno non è credibile, se riceve dei regali come fai poi andare a fargli pagare le tasse? I regali sono irricevibili, fra cui anche i biglietti. Ma questo lo capiscono tutti, tranne il consigliere comunale Pescara, che questo però sembrava per esempio, non volerlo capire. Per esempio a Udine è stata fatta una grandissima battaglia su questo e si è arrivati a una nuova convenzione molto rivoluzionaria e l'Udinese Calcio rifarà lo stadio che è comunale con i soldi suoi, senza soldi pubblici, con una battaglia che è durata moltissimo, ma alla fine ha prodotto un risultato di buonsenso, che vuol dire che nelle città piccole o grandi i risultati li si possono raggiungere se c'è un obiettivo comune. Udine è un esempio da questo. Va bene, grazie Diego. Andiamo a Bologna, dalla provincia di Bologna. Milo ci chiama. Buonasera, prego. Milo. È sparito Milo. Gianni, allora andiamo a Milano. Gianni da Milano, buonasera. Buonasera. Prego. Buonasera. Senta, purtroppo peccherò di completezza in quanto non ho sentito l'intera intervista del consigliere comunale di Pescara. Però trovo vergognoso o quantomeno singolare che si preoccupano tanto di controllare lo stadio e magari di cose più importanti. Non so, ci sarà un ospedale a Pescara da controllare meglio, piuttosto che qualcos'altro. Proprio ormai i politici cioè, non hanno più ritegno e questa è una cosa vergognosa. Vabbè, voleva dire qualcosa. Meno male che c'è la Zanzara per poter dire queste cose. Ah beh, questo sì. Veramente grazie a tutti voi. Va bene. Voleva aggiungere qualcos'altro Gianni o era solo su questo? Guardi, no, l'indignazione è tale che il silenzio è la cosa migliore. No, vabbè, che c'entra? Se fa così, se facessero tutti come lei non faremmo il programma. Tutti indignati, sì, ma in silenzio. Invece sarà l'emozione forse. Sarà l'emozione. Va bene. La ringrazio. Grazie a lei, buona serata. Arrivederci di nuovo. E adesso andiamo a Crema. Rosanna ci chiama, buonasera. Buonasera dottor Maurizi. Allora, oggi ho letto una notizia stupefacente da un quotidiano, non so se posso dirlo. Certo. Italia Oggi. Sì. Dunque, un sindaco, un certo Tiziano Tagliani, sì, di Ferrara, è riuscito a risparmiare ben 40 milioni di euro nel giro di 3 anni. Questa è una notizia che, se io avessi un sindaco così, visto che sono 10 anni che non vado più a votare, andrei a votarlo. Se lo sposerebbe un sindaco così? No, non lo sposerei. No, vabbè, adesso è già sposato. Ma lo voterei magari, sì. Sicuramente al di là di tutte le stupidaggini. Ma io questa notizia non l'ho vista, però sì, ci sono sempre delle buone notizie. Delle amministrazioni, noi parliamo spesso dei comuni, dei sindaci, perché hanno responsabilità, no? Che riescono a fare delle cose. Adesso ci documenteremo su questa cosa qua di Ferrara. Guardi, è stato bravissimo. Io non sarei stata in grado di fare una cosa del genere. Vabbè, certo, non è che uno la fa da solo, si mette lì e fa il taglio. È abbastanza complicato. Sarà un'operazione di finanza comunale fatta con risparmi, interventi, spending review. Sì. Ci vuole testa, abbiamo tante brave e belle teste in Italia che, se le lasciassimo lavorare, noi saremmo i più ricchi del mondo, guardi. Ascolti, mi permette un'ultima cosa? Certo, Rosanna, siamo qua per ascoltarla. Grazie. Allora, io ho sentito il signor Marchetti. Sì. Dopo tutto quanto ci ha elencato. Sì. E ha detto che il nostro paese è una democrazia avanzata. Ma visto quello che lui ci ha raccontato, probabilmente è stato ironico, voleva dire che è un avanzo di democrazia. Bella questa, Rosanna. Devo dire, grazie tra l'altro, devo dire che anche a me l'intervista di Marchetti ha lasciato un po' perplesso, perché pur dicendo, anche se in termini tecnico-politichesi, i motivi di questo dissenso, non ha voluto buttare la croce addosso a Orlando, che invece secondo me la porta tutta la responsabilità di quello che è successo. Scusate, ma se non è Orlando il sindaco della città che ha preso queste decisioni a essere responsabile del fallimento di questo debutto di questa giunta di questo, o quantomeno per quanto riguarda le dichiarazioni del vice sindaco, mettiamola così, assessore al bilancio, un ruolo abbastanza chiave, e allora di chi sono le responsabilità? Su questo Marchetti è stato molto vago, e allora poi dice paese avanzato democraticamente, come ricordava l'ascoltatrice, però da quello che lui ha detto si dovrebbe concludere diversamente, almeno per quanto riguarda il caso di Palermo. Daniele da Roma, per chiudere questa sera la puntata, buonasera. Sì, buonasera a tutti. Io volevo ritornare sul discorso della tessera, dell'abbonamento al Pescara Calcio, sì. E comunque tutte le tessere che vengono più o meno donate a politici o a chi per loro. Io sono appartenente al Ministero dell'Interno e secondo me il punto è un altro. Il punto sarebbe, il punto è quello che le spese dell'ordine pubblico sono a carico nostro. Come prima diceva il consigliere comunale di Pescara, diceva che la questura deve garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, giusto? Sì. Se noi questo lo dobbiamo fare, lo dobbiamo fare per tutti gli stati d'Italia, e ogni domenica si spendono delle cifre molto importanti per questo discorso, cose che ricadono sul cittadino comune e direttamente su di noi. Va bene, grazie Pietro, dobbiamo fermarci qua perché lo spazio a nostra disposizione anche per questa sera è esaurito. Ci ritroviamo domani con la Zanzara dopo il GR delle 18. Buona serata a tutti. Radio 24, la passione si sente.